Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Non stampi quella roba. E questo che vorrebbe essere? Un ordine? Se non stasera sarà domani, o fra una settimana, o fra un anno. Ma prima o poi la pagherà. Ehi! Hutchison, questo baccano, che succede? È la stampa, belletta, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente. Ciao a tutti e bentornati ad Archeologia Videoludica. Prima di parlare di questo bellissimo argomento, un argomento che riporterà tutti noi indietro di qualche anno a momenti in cui essere nerd era veramente una cosa nerd, vi diamo un paio di riferimenti. Allora, il nostro sito ufficiale è www.archeologiavideoludica.net. Vi invitiamo a farci un salto di tanto in tanto perché ci pubblichiamo un sacco di articoli, recensioni, storie strappalacrime, storie non strappalacrime, insomma ci scriviamo un sacco di cose divertenti. Ci potete trovare anche su Facebook, cercate Archeologia Videoludica, e anche su Google Plus. Non so chi di voi va su Google Plus, però insomma siamo anche lì per il vostro piacere. Su Twitter il nostro account è @videoludica. Lì scriviamo già di più e siamo molto più social, anche se io personalmente non considero Twitter un social network. La nostra email è archeologiavideoludica@gmail.com. È lì che apprende le polvere, però magari se qualcuno scrive ci divertiamo anche di più. Il portale che produce con noi questo programma è Old Games Italia, il cui indirizzo è www.oldgamesitalia.net. Se vi sbagliate potete scrivere anche www.oldgamesitalia.it. Mi sembra che Bertoni abbia comprato tutto. Alla parte tecnica ci sono io, che sono Alex Raccuglia, e vi invitiamo bellamente a scriverci commenti su iTunes. Perché? Perché iTunes è sempre comunque il nostro papà spirituale, dato che questo è un podcast. Signore e signori, questo è Archeologia Videoludica. Signore e signori, bentornati ad Archeologia Videoludica. Vedo qui che già scalpita il nostro carissimo Alex Raccuglia. Ciao a tutti e bentornati. Mi sa che adesso prendo io la parola, Alex. Va bene, Alex. Grazie, Alex. Allora, da nord, dall'estremo nord, da dove la neve non smette mai di cadere, anche se i ghiacciai si sciolgono, Marcus Brody, detto Zam, Roberto Bertoni. Ciao a tutti ragazzi e buona domenica mattina. È giusto precisare che domenica mattina il nostro stato catatonico è abbastanza elevato. Non devi scusarti, dai, sei catatonico anche la sera tardi. Oggi abbiamo un simpaticissimo ospite, introdotto da questa bellissima scheda biografica. Carlo Sant'Agostino ha cominciato a farsi strada nel rutilante mondo dell'informatica in tenerissima età, quando, appena quindicenne, ha pubblicato i primi giochi per ZX Spectrum per la rivista Load and Run dell'editore milanese Aquarius. Dalle frequentazioni con Marco Mietta sono poi venuti alla luce i primi giochi per Commodore 64, di cui ha disegnato la grafica, come Durlindana o Il Paninaro. Successivamente, la sua multiforme carriera è proseguita come redattore per la mitica rivista Zap nell'era di Bello, di cui ha anche curato l'angolo della posta. E poi ha prodato la rivista Amiga Magazine come responsabile della realizzazione del floppy allegato. Negli anni non ha mai abbandonato il mondo dell'IT, dove ha ricoperto svariati ruoli. Attualmente è un imprenditore con un'azienda nell'ambito web e assistenza sistemistica, ma soprattutto vanta una grandiosa collezione di robottoni giapponesi e di vecchi computer e console di cui possiede anche i più astrusi modelli. Signori e signori, per voi Carlo Sant'Agostino! Devi presentarti, Carlo. Ah, ok. Scusate, ragazzi. Iniziamo subito con le figuracce. Bene. Vi ringrazio tantissimo per avermi invitato, per essere qua presente, e grazie soprattutto all'introduzione che ricordava appunto un tempo in cui i nerd erano veramente nerd. Confermo che era esattamente così, eravamo veramente dei nerd. E all'epoca essere nerd non era come adesso, che è un pochino meglio, diciamo, era proprio essere ai margini della società normale, diciamo, tradizionale, anche perché il mercato videoludico, come potete immaginare, non era certamente quello che è attualmente. Si trattava di un mercato, direi, quasi di nicchia, quindi pochi sfigati, diciamo, che si arrabattavano a fare della loro passione potenzialmente un lavoro. Non so, volete iniziare con delle domande o inizio a parlare e poi mi sparate prima che... Io direi che presento anche i nostri altri due concorrenti, va bene? Prego, prego, prego. Ok, al di là del Po, dove le temperature sono quasi sempre tropicali, Simone Pizzi. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo star vino... Simone Pizzi. Pizzi? No, mi sa che ci siamo giocati, eh? Ah, ho capito, sì, scusate, mi ero dimenticato di dirvelo. Noi stiamo registrando questa trasmissione prima del 21 dicembre, per cui molto probabilmente il mondo sta iniziando a finire e di conseguenza il sud del mondo è andato evaporando. Vabbè, niente Simone Pizzi. Ci sei piaciuto, padre spirituale, padre putativo e padre nostro. Rimarrai sempre con noi e noi rimetteremo i nostri debiti così da qualche parte. Vabbè, torniamo a nord, torniamo a Milano, in quella della storia del videoludismo, dell'editoria informatica, Stefano Paganini. Stefano Paganini, neanche lui, cioè non c'è nessuno oggi. Il mondo è, se è rimasti solo noi tre, dobbiamo ripopolare noi tre la razza umana. Ottimo, io faccio il maschio. Io declino, grazie. Stavo pensando anche di declinare. Vabbè, niente, andiamo avanti. Se qualcuno si vuole unire nel frattempo vedremo. Prima di parlare però dell'argomento principe di questa bellissima trasmissione, è venuto il momento di quelle bellissime siglette in cui presentiamo le notizie. Le notizie da oggi. OGI. It's the game. Porco 2. Perfetto, allora rubiamo proprio 2 minuti di tempo giusto per dare 2 notizie che potrebbero interessarvi, sempre i nostri retro appassionati. Vi segnalo una buonissima possibilità di giocare online a Dune 2, riprodotto e rifatto in maniera completa, in maniera molto, direi, eccellente. E infine vi segnaliamo, come sempre, uno dei nostri vari progetti di traduzione, questo è veramente potente, Zork, un'avventura testuale dalla Infocom, diciamo che potrebbe trovare diversa gloria nei vostri desktop, qualora il progetto riuscisse a arrivare alla fine, quindi vi invitiamo a seguirla. Rubiamo poco tempo appunto perché la puntata è proprio ricca. Perfetto, grazie. Oh, meravigliosa queste news. Sembrano delle news proprio. The breaking news. A proposito di news che rompono, partiamo con le notizie da IPN. It's in the game. A riporco 2. E anche qui il deserto dei Tartari. Mi sa che Pizzi non è risorto dal mondo dei morti in cui è stato mandato, anzi, del mondo dei mortacci. Vabbè, a questo punto direi che giriamo pagina e entriamo direttamente nel vivo della discussione. Vorrei farvi notare che sono passati solo 6 minuti dall'inizio della registrazione. La mancanza di gente porta a questa trasmissione ad essere molto, molto, ma molto, ma molto più veloce. Ok, entriamo nel Barnett College. Ok, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo dell'editoria videoludica, in un periodo in cui videoludica non era ancora stato inventato. Sapete che è un neologismo creato da Matteo Bittanti, anche lui diciamo un protagonista del videoludismo, però prima ancora che Matteo Bittanti ci fosse. Qui stiamo andando a scavare le prime pagine stampate, quelle che erano stampate male, quelle che erano in carta brutta, quelle che se si bagnavano era praticamente da buttare via. L'editoria videoludica degli origini. Oggi parleremo da dove nasce, cosa ci ricordiamo e cosa ci portiamo dentro da queste prime esperienze. Roberto, vuoi introdurre tu? Diciamo che farò un'introduzione molto breve per poi lasciare appunto lo spazio al super ospite che sicuramente ha da una parte un bagaglio di esperienza enorme e rispetto al mio, guarda, mi sento solamente una piccola mosca in uno stagno bagnato. Bella questa metafora, molto allegra. E appunto lui sicuramente ha più esperienza e poi diciamo che l'introduzione che farò io è un po' presa da un sito, era un articolo di un nostro amico Andrea Pachetti, anche utente di Games Italia, dove appunto lui cerca di delineare un po' le principali riviste e i principali passaggi. Chiaramente lo spazio che potremo dedicare grazie a Carlo sarà molto più approfondito e molto più retrovideoludico, giusto per usare un termine, un neologismo inventato da Bertoni che verrà ricordato nei secoli dei secoli, amen. Diciamo che appunto l'introduzione vuole raccontare un po' quello che è successo agli albori del tutto, nel senso che come spesso accade in Italia la nascita delle riviste videogiochi è un po' una sorta di nascita derivativa, nel senso che ha preso un po' gli spunti e gli inizi da quello che erano le controparti inglesi. In qualche modo hanno cercato di importare un modello anche in Italia di riviste. Abbiamo avuto diversi protagonisti, diverse riviste, ricordiamo giusto per affetto tre grandi riviste: una è Videogiochi della Jackson, la seconda è Zap della edizione Hobby per questo Toxenio, e la terza protagonista è K. Diciamo che queste tre grandi riviste hanno segnato un po' gli albori, impostando quello che poi è diventato un modello anche per le riviste successive. Quindi una parte dedicata alle news, una parte alle preview, le recensioni. Però, come sempre succede in Italia, abbiamo cercato in qualche modo di introdurre un elemento di rottura, o meno una rilettura di quello che era un modello predefinito. Qui ad esempio abbiamo delle votazioni fatte in maniera particolare, quindi magari non semplicemente coi numeri, che adesso ormai sembrano aver affossato qualsiasi tipo di critica nel mondo dei videogiochi. C'era anche un inguaribile ottimismo, nel senso che si vedeva il futuro come qualcosa di migliore, dove le riviste sarebbero vissute per sempre. Vediamo purtroppo in questi anni come è così, visto che sia in Italia che all'estero numerose riviste stanno cadendo una dopo l'altra. Insomma, diciamo che era un periodo veramente d'oro. Bertoni, ti interrompo per dirti che non è una cosa relativa soltanto alle riviste di videogiochi. Tutta l'editoria cartacea si sta vaporizzando in bit più o meno pesanti. Sì, questo sicuramente è vero, però diciamo che per quanto riguarda i videogiochi la cosa diventa particolarmente potente e rilevante, e magari poi ci torneremo verso la fine, nel senso che il problema grosso delle riviste videogiochi è in questo momento internet. Ai tempi invece si atteneva con ansia, per i pochi nerd, come ricordava giustamente Carlo, la rivista. Volevo sottolineare, scusami, solo è vero che tutta l'editoria sta crollando, ma quella dei videogiochi e quella informatica è quella che crolla prima, ovviamente, semplicemente per un fatto endemico del mezzo. Siccome è internet che sta facendo crollare l'editoria, è ovvio che la prima a crollare è quella relativa a qualcosa di molto legato come l'informatica. Le riviste di informatica, le riviste di videogiochi sono state le prime a subire la crisi, le altre l'avranno in seguito. Giusto un appunto così per... Sono assolutamente d'accordo. E infatti, nel senso che appunto, come sto cercando di dire, però chiaramente ci sono numerose sfaccettature, è sicuramente un fenomeno che ai tempi non si immaginava, ma che in qualche modo ci si poteva aspettare. Diciamo che la cosa che, se vogliamo, ha particolarizzato particolarmente il discorso italiano era magari la creazione di una vera e propria comunità di nerd, che trovando finalmente un punto di sfogo, un punto dove riuscire in qualche modo a trovarsi, creava un ritorno abbastanza importante, con i famosi angoli della posta che erano poi protagonisti in quegli anni di numerose discussioni sia fra videogiocatori sia fra videogiocatori e rivista, un po' un punto di contatto, una creazione di una comunità. Certo. Ricordo ad esempio in tempi più recenti anche tipo The Games Machine, che aveva un angolo della posta che era praticamente il Sanctum Sanctorum dei videogiocatori. Lo so, perché io l'ho tenuto per un anno, esattamente l'anno in cui Matteo Bittanti andò a fare l'Erasmus negli Stati Uniti. Stiamo parlando del 91, io ho tenuto la posta di The Games Machine e Zap per tutto il 91. Quindi anche tu sei stato un po', diciamo, il protagonista di questo grandissimo fenomeno. E niente, appunto, questi tre grandi attori, videogiochi, Zap e K, tutti e tre già da anni non più presenti in edicola, alcuni sono riusciti ad arrivare addirittura al famoso gioco allegato, che è un'introduzione successiva, però tutti purtroppo non hanno saputo resistere al passare del tempo, per n motivi che magari adesso con Carlo riusciremo magari anche ad analizzare. Però insomma, la storia delle riviste videogiochi ha avuto una vita breve, nel senso parliamo dal, diciamo, inizio anni 80 fino a, diciamo, i 2000. Sì, non brevissima, dai, sono 20 anni comunque. Sì. Direi che non è proprio breve, comunque è giusto così, anche perché in realtà non è che adesso credo l'editoria videoludica sia finita come senso di editoria, è il mezzo che cambia ovviamente. Questo produce una crisi nelle redazioni attuali, nel metodo di pubblicazione, ma i blog, le riviste online prenderanno il posto di quello che era l'editoria tradizionale. Hanno già preso il posto in alcuni casi. Anche voi fate parte di questo nuovo mondo, se vogliamo, con i podcast. Sì, guarda, quasi quasi ne approfitto per agganciarmi con la prima domanda, in modo tale che con uno spunto che ho dato adesso, nel senso che raccontandoci un po' anche magari quello che i tuoi ricordi, la tua esperienza. La mia impressione, vedendo appunto questo passaggio, questo ventennio di evoluzione, che sia passati magari da un'informazione più, passami il termine, approfondita, quindi dove chi lavorava in videogiochi ha un'informazione che in questo momento è frammentata, e dove appunto non c'è più il professionista, ma anzi la qualità media tende un po' a scemare, sia appunto per un discorso di magari ritorno economico, sia perché appunto internet richiede tempi di ritorno molto più rapidi, molto più veloci. Quindi se prima per recensire un gioco magari potevi avere ad esempio più tempo, adesso hai 4-5 giorni per poter arrivare sul pezzo. Guarda, allora mi permetto di dissentire. No, certo, questa cosa. Ti spiego. Allora, in realtà il fatto di vedere adesso una minore qualità sia per me molto più il mezzo che la produce che il fatto che ci siano meno persone professioniste che facciano o che dedichino tempo a fare le recensioni di videogiochi. Cioè, in realtà è internet il problema adesso, cioè il modo in cui viene pubblicato, che ovviamente aumenta la quantità di informazioni, aumenta anche la quantità di spazzatura, se vogliamo. Dissento da quello che dici, nel senso che secondo me adesso c'è molta più professionalità che quando ci lavoravo io. Guarda che quando lavoravo io nelle riviste di videogiochi eravamo 4-5 ragazzini che giocavano ai videogiochi, venivano presi, buttati lì, ci davano 8.000 lire a cartella per scrivere 4 cazzate e ci divertivamo come dei matti. Però in realtà non affrontavamo il problema da un punto di vista professionale, eccetera. C'è stata tutta un'evoluzione che poi ha portato anche a un filtro, a una serie di passaggi di persone che sono cresciute, perché io sono del 70, ho iniziato a entrare un pochino nell'editoria a 15 anni e nell'85-86 e sono uscito a 27 anni nel 97 quando ha chiuso Amiga Magazine. Quindi come me tantissime persone in quel periodo hanno avuto un'evoluzione dal punto di vista professionale, ma ti posso garantire che soprattutto nelle riviste di videogiochi in quegli anni era quasi tutto, non dico che era fatto alla cazzo, ma al dottor cazzo è scritto KSCKO, giusto, ma era così, cioè non c'era nulla di professionale, se vuoi. Gli unici a introdurre un po' di professionalità quando li ho conosciuti dopo, prima e dopo, erano sicuramente Albini e Rossetti, che infatti le loro riviste, quelle dirette da loro, secondo me le noti ancora adesso un pochino più. TGM e Zap edizioni post Albini Rossetti erano belle perché erano divertenti, perché capivi che c'era un gruppo di gente che si divertiva e faceva divertire. C'erano dei personaggi importanti, tra cui io mi tolgo perché c'era sicuramente Matteo, c'era Marco Letta, c'erano delle persone che veramente coi videogiochi ci vivevano dalla mattina alla sera, però il resto della redazione eravamo un po' così, cioè sparavamo cazzate, diciamo, tra virgolette. Adesso a volte a rileggere le cose che scrivevo mi vergogno profondamente alcune volte, però dai, erano quei tempi, avevamo anche 16, 17, 18, 20 anni, quindi stiamo parlando veramente di un inizio pionieristico, ecco, anche perché ricordo ancora, non stiamo parlando del mondo attuale, stiamo parlando di un periodo in cui i videogiochi erano, il mercato dei videogiochi era una caccola rispetto a quello attuale, anche se era comunque importante, già ai tempi dell'Atari, eccetera, eccetera. Non è quello di adesso, di Nintendo, di Sony e di Microsoft, che ha superato addirittura il mercato cinematografico. Non solo, il cinematografico e quello della musica messi insieme. Ah sì, certo, perché anche la musica sta vivendo la sua bella crisi ultimamente. Avete delle domande specifiche? Andiamo avanti, vado avanti a ruota libera, ditemi voi. Come preferite. No, ci racconti magari appunto gli inizi, nel senso come è iniziato, in modo tale che ci sia un po' in contesto. Ma guarda, allora, gli inizi dell'editoria videoludica sono in Italia, sono Albini Rossetti e Videogiochi. Da lì è iniziato tutto, perché stiamo parlando del 1982, anche se ci sono stati delle piccole pubblicazioni precedenti, ma si tratta di riviste di elettronica che parlavano di videogiochi da un punto di vista più di come costruirseli, eccetera, quindi stiamo parlando di tutt'altro. Ma in realtà Albini Rossetti sono quelli che hanno iniziato. Io avevo 12 anni e me lo ricordo benissimo, perché io avevo l'Atari 2006 e trovai in edicola, andavo in edicola di solito per comprare Topolino, di fianco a Topolino trovo videogiochi e dico cos'è, oh che bello, basta, ho iniziato a imparare a memoria quelle pagine. Io credo che i primi 20 numeri di videogiochi li so citare a memoria ancora adesso. Da quello è iniziata un po' tutta la mia passione. In realtà nell'inizio della mia collaborazione con l'editoria non è stato come scrittore, ma bensì come programmatore di videogiochi, perché la passione di vedere i videogiochi e di essere appassionato di videogiochi mi ha portato ovviamente a tentare di farli. Li ho fatti leggendo poi le altre riviste di informatica all'epoca, ricordo la più importante MC Microcomputer ovviamente di quei tempi, e da lì che lessi la recensione del Sinclair ZX Spectrum che presi nell'84. Nell'84 iniziai a programmare e produssi dei videogiochi emulando un mio amico che aveva 5 anni più di me. Si tratta di Marco Mietta, non so se lo conoscete Marco Mietta? No, sinceramente no. È l'inventore di Primo Giovedini, conoscete Primo Giovedini? Sì, è lui. Certo, Marco Mietta insieme a me, a suo fratello e a mio fratello e Andrea Perotti inventammo Primo Giovedini nel 1986 in una spiaggia di Borgio Verezzi in Liguria. Marco aveva 5 anni più di me, quindi era quello più grande, e lui propose Primo Giovedini alla Systems Editoriale, Commodore Computer Club, la rivista, e da lì iniziò le pubblicazioni. Io iniziai ad andare nelle prime redazioni della Systems Editoriale, Commodore Computer Club, Sinclair User eccetera nell'85-86, proprio accompagnando Marco Mietta. Marco programmava videogiochi sul Commodore 64 che venivano pubblicati dalla Edisoft in edicola, perché a quei tempi stiamo parlando di un periodo in cui la SIAE non copriva il diritto d'autore sui videogiochi. Quindi in Italia cosa succedeva? C'è stato un fenomeno che poi lo possiamo definire come pirateria industriale, che non è la pirateria classica, no, è vero, guardate, è un argomento importante perché questo porta anche a capire come mai in Italia in questo momento siamo rimasti così indietro rispetto ad altre nazioni per quanto riguarda la produzione di videogiochi. Abbiamo avuto un gap di 15 anni buoni tutto. Il problema reale è stato proprio questo, cioè che non riconoscendo la SIAE il diritto d'autore sui videogiochi come opera di intelletto, in Italia i videogiochi potevano essere legalmente copiati e distribuiti, legalmente, non illegalmente, perché la pirateria c'è sempre stata e sempre ci sarà, quella illegale in Italia come nel resto del mondo. Ma in Italia dall'82-83 fino arrivare al 91, quando fu poi riconosciuta la legge della SIAE per coprire anche il diritto sui videogiochi, aziende SRL potevano prendere, copiare i giochi, cambiargli il nome, pubblicarli e farlo nella legalità. Quindi in Italia uscirono tutte le famosissime riviste della SIP, eccetera, Special Program, Special Play Games, pubblicavano 8, 9, 10 giochi a 8.000 lire, copiando i giochi d'oltreoceano. In mezzo a queste pubblicazioni, su Loader Run, su Run, su altre riviste che uscivano in edicola, c'erano anche delle produzioni italiane, di programmatori italiani appassionati come me, come Marco, come altri. Però fate il conto, io mi ricordo che dal primo videogioco che ho pubblicato per Sinclair ZX Spectrum ho preso 250.000 lire, che per me all'epoca erano tantissimi soldi perché avevo 16 anni, mi comprai il floppy eccetera. Però facciamo un paragone, nell'86 io ho preso 250.000 lire producendo e pubblicando un videogioco per un editore italiano che era l'Arcade Edizioni, programma Loader Run. Un mio coetaneo uguale a me in Inghilterra produceva lo stesso videogioco, lo pubblicava la Mastertronic nella linea budget a una sterlina 99, prendeva qualcosa come 20.000 sterline. Me coglioni. Fate le debite proporzioni, cioè in Inghilterra uno poteva considerare quello diventare il suo lavoro per il futuro, in Italia 250.000 lire, arrivava mio papà e mi diceva bravo, studia, fai il dentista, cioè non mi diceva certo mettiti a fare videogiochi o fai un'azienda per fare videogiochi. Perché stiamo proprio parlando di un mercato in cui le riviste uscivano in edicola con decine e decine di videogiochi gratis che avevano, perché li producevano all'estero, li ritraducevano e li pubblicavano in Italia. Questo ha ucciso la produzione di videogiochi in Italia nella fine degli anni Ottanta, che sarebbe stato il momento in cui nascevano all'estero tutte le più grandi case di produzione di videogiochi. In Italia ci provò solo la Simulmondo, ma finì anche lei per fallire. Perché? Perché uccisa da questo metodo di mercato, cioè questo metodo di distribuzione. Quindi stiamo proprio parlando della nostra, cioè la SIAE, nel bene e nel male ha sempre fatto qualcosa di male, lo fece anche con i videogiochi, non riconoscendone il diritto ad essere protetti, insomma, come diritto d'autore. Quindi fu un disastro. Infatti accusiamo questo ritardo di almeno 15 anni rispetto al resto del mondo come inizio di start-up di produzione di videogiochi, non perché non ci fossero i programmatori o perché non fossimo bravi, tutt'altro. Anzi, di vedere quello che siamo riusciti a fare pure in questa situazione, direi che è stato, che avremmo potuto fare molto di più in Italia, sicuramente. Ma siamo in Italia, adesso non divaghiamo comunque. Quindi stiamo parlando dell'85-86, io pubblicai i videogiochi su Sinclair ZX Spectrum, andavo all'assistance editoriale con Marco Mietta, li pubblicavamo Primo Giovedini, le strisce di Primo Giovedini. Nel 90 io conosco poi, quindi io più ero, non ero un giornalista, ero un tecnico, ero proprio un programmatore di videogiochi, ero appassionato di videogiochi ma programmavo videogiochi. Questo fino a circa il 90, quando conosco Antonello Iannone alla SIM. Antonello Iannone fa parte, uno dei primi, anche lui ex programmatore di videogiochi, fa parte della prima redazione dopo l'uscita dello studio VIT da ZAP. Cioè, cosa successe nel 90? Albini Rossetti, lo studio VIT, se ne andò lasciando le edizioni Hobby per i siti interni, diciamo, vi racconteranno poi loro se, quando li intervisterete, lasciando praticamente in mano ZAP, che era una rivista che vendeva benissimo, ma senza più redazione. Lì un certo Bonaventura Di Bello, di all'epoca giovane come noi, un pochino più vecchio di noi ma di appena qualche anno, prese in mano da solo tutta l'edizione di ZAP e iniziò a ricostruire una redazione cercando nei ragazzini appassionati qui e là chi poteva aiutarlo, e si formò, diciamo, la seconda redazione di ZAP, quella che poi diede luce anche a The Games Machine. Quindi stiamo parlando di Bonaventura Di Bello come caporedattore, poi seguito da Stefano Gallarini, arrivammo Matteo Bittanti, ex lettore che diventa poi gestore della posta, eccetera eccetera, Antonello Iannone, Marco Auletta, io, Carlo Sant'Agostino, Max Renault. Questo è il primo gruppo, Simone Crosignani, ecco, nel primo gruppo Simone Crosignani, che poi andò a fare Super, Mega, eccetera, con la futura edizione. E poi da lì, poi tutti gli altri, poi si unirono quelli di Boba Byte, il gruppo di Vigevano, eccetera eccetera. Quel periodo lì fu un periodo molto divertente. Ah, ecco, Fabio Rossi, ecco chi c'era anche, certo, perché poi Fabio fu quello che ci portò via, tra virgolette, quando tornò Marco Letta, quando tornò Matteo, perché poi Matteo faceva l'ultimo anno di liceo e andò a fare l'Erasmus negli Stati Uniti. Io lo sostituì, come ho detto prima, nella gestione della posta su ZAP e The Games Machine, ma quando tornò Fabio Rossi prese contatti con l'edizione inglese di CPVG per fare un'edizione italiana, perché quello era il periodo, diciamo, di boom dell'epoca delle riviste di videogiochi, e la pubblicò con il gruppo editoriale Jackson. E lì andammo io, Marco Auletta, Matteo Bittanti e Simone Crosignani, insieme a Fabio Rossi. Però siccome io avevo un animo più tecnico, con due N, all'epoca l'ho sempre avuto, infatti la mia gestione della posta sarà sicuramente ricordata perché quella di Matteo Vittanti era molto più divertente e filosofeggiante, la mia si discuteva in quanti colori aveva l'Amiga e quanti aveva l'Atari ST e cose di questo genere. Cioè tra i nerd eri più nerd. Sì, io ero sicuramente uno di quelli che guardava, anzi, infatti spesso ultimamente mi trovo a spiegare come mai, alcuni mi chiedono come mai quel videogioco lì che era così bello prese così poco in quell'edizione lì. E io, andando a rivedere la recensione dell'epoca, mi rendo conto che a quei tempi davamo un'importanza incredibile alla tecnica di programmazione e non tanto, tralasciavamo molto, se vuoi, la giocabilità, cioè gli argomenti veri del videogioco, perché se il videogioco era anche bellissimo da giocare, però aveva uno scrolling che non era fluido, scattava un pochino, basta, gli davi 20, cioè una schifezza, come se il videogioco non contasse più, tra virgolette, perché era un periodo così, si dava molta importanza alla tecnica di programmazione, alla bravura. Magari c'era un altro videogioco che invece come giocabilità era una schifezza, però aveva 12 scroll parallattici, 27.000 spread su schermo, allora diventava bello automaticamente. Quindi giusto questo per dirti, fare la contrappunto a prima quando dicevi la serietà eccetera, in realtà eravamo, cioè non guardavamo alla fine anche il videogioco, ma spesso si andava a guardare più la tecnica di programmazione, che c'entra poco, se vuoi, con la giocabilità del videogioco stesso. Sì, però comunque, scusa, sì. Però nel senso, questa è una cosa veramente interessante che io per esempio non conoscevo, quindi è sicuramente un aneddoto interessantissimo. Di contro però magari vedo quello, la situazione attuale, che spesso la parte tecnica viene lasciata un po' troppo in disparte, nel senso che escono titoli extra vagati eccetera eccetera, si chiude un occhio e via. Ecco, magari una via di mezzo potrebbe essere certo. Migliore. Questa può essere la legge del contrappasso adesso, invece non guardano più quello, guardano altro, però va bene. Diciamo che ultimamente, se mi chiedete le cose vecchie, ve le dico, cose nuove no, perché poi sono 10-15 anni ormai che seguo veramente poco il mercato, diciamo, del videogioco attuale, ecco. Quindi su cosa succeda esattamente adesso poi nel campo dei videogiochi e editoria so, ma non sono così ferrato come sul passato, ecco. Vabbè, ti interrompo, sennò diventi un fiume in piena e facciamo fatica, sì, ad arginarti. Vai, tranquillo. Infatti ho detto, dovete spararmi dopo per fermarmi. No, tranquillo. Al massimo ti cancelliamo da Skype. Allora, okay. Raccontaci invece com'era la vita di redazione. Cioè, tu lavoravi in redazione oppure lavoravi da casa? E invece, raccontaci i pro e contro dei due fatti. Nel senso, stare insieme agli altri oppure nella solitudine assoluta, nella tranquillità. Si stava, devo dire, allora, si lavorava molto poco in redazione, cioè la redazione fissa c'erano, mi ricordo ai tempi c'era solo Marco Oletta e Buonaventura, fine, in redazione a Zapatia, perché Marco Oletta veniva lì anche perché abitava a tipo 400 metri da via Cialdini, dove c'era la prima redazione di Zap, quindi usciva di casa, andava lì, stava lì tutto il giorno. Buonaventura invece lavorava lì proprio perché era quello che impaginava la rivista, la produceva, la scriveva, tutto quanto, la correggeva. Noi gli altri eravamo, i collaboratori erano tutti collaboratori esterni, erano tutti ragazzi che studiavano, che andavano a scuola, quindi non è che stavamo lì in redazione fissi. Io passavo abbastanza tempo in redazione, un po' perché ero nerd, come giustamente avete detto, ma ero molto appassionato, tecnico, quindi aiutavo anche in redazione, diciamo, a sistemare. Ci deve essere una posta di Matteo, credo, in qualche numero di Games Machine o Zap, dove mi ringrazia alla fine perché gli ho salvato i dati dal floppy che si era cancellato, qualcosa di genere. Avevo usato dei programmi di recupero dati dell'epoca, quindi stiamo parlando proprio del paleolitico inferiore. Comunque, la vita di redazione com'era? Quando ci si ritrova in redazione non si lavorava, perché se ti ritrovi in redazione era perché si guardavano le recensioni che avevamo scritto a casa, si vedevano le novità, ci si scambiavano, ecco, c'era la consegna dei giochi dove si litigava su chi doveva recensire cosa, eccetera, e c'era sempre da recuperare i giochi che non tornavano più indietro, quello me lo ricordo, e c'era, ci si trovava, si faceva casino in redazione. Mi ricordo che vedevamo, oltre a giocare ai videogiochi, leggevamo fumetti, guardavamo cartoni animati da nerd, tipo il film di Kenny il Guerriero in versione originale giapponese che non era uscito in Italia, cassetta NTSC. Siccome in redazione c'era un videoregistratore che leggeva anche le NTSC, che per l'epoca era cosa rarissima, guardammo tutti insieme il film di Kenny il Guerriero in giapponese non sottotitolato. Mi ricordo Marco Oletta che esclamava minchia ogni 3 secondi vedendo quel film. È un'immagine che ho fissa nella mente. Vabbè, veramente un gruppo di nerd, come ho detto prima. Comunque, si giocava tanto in redazione, si discuteva, si litigava. Mi ricordo litigate feroci ai tempi dell'uscita del Super Nintendo. C'era Marco Letta e io che difendevamo il Super Nintendo dicendo che era bellissimo. C'era Simone Crosignani e Antonello Iannone che invece dicevano che il Neo Geo era molto meglio. Tra virgolette, alla fine avevamo ragione tutte e due, perché adesso come adesso, all'epoca il Neo Geo era il top come lo è ora, ma era su una fascia di prezzo che sia allora che oggi è tra virgolette improponibile rispetto a quella su cui si era posizionato invece il Super Nintendo. Quindi discussioni tecniche feroci, diciamo, sui videogiochi, sul mondo dei videogiochi, e giocare, discussioni anche sulle varie macchine, mi ricordo del Spectrum, Atari ST, le guerre che poi vedete ancora adesso, discussioni che ancora adesso sono, cioè io ormai ho fatto il callo, infatti ormai mi considero immune, diciamo, alle lotte di religione, anche adesso mi sorrido tra virgolette tra le lotte tra iPhone, Android, Mac OS X eccetera, perché mi ricordano quelle che fece il mio tempo tra Amiga, Atari ST, Sinclair Spectrum e Commodore 64, oppure Atari 2006 Television, se torniamo indietro ancora di qualche tempo, ci sono sempre state, insomma, tutte le console, ogni console è bella mamma soia, come si dice adesso. Francamente adesso ho aggiunto tra virgolette la pace dei sensi, nel senso che ti rendi conto dopo anni che sono tutte discussioni inutili, perché puoi trovare dei pro e dei contro in qualunque cosa, quindi non è quello che ti fa capire che una console è meglio di un'altra o che un videogioco è meglio di un altro, dipende dal periodo, dal tempo, da un sacco di fattori. Visto che appunto hai raccontato della fantomatico evento della consegna dei videogiochi, sì. Quanto si recensiva e quanto magari si traduceva, giusto per sì, più o meno 50-50 così, quando ci ho lavorato io almeno, quindi stiamo parlando, io ho lavorato nelle riviste, nelle recensioni dei videogiochi dal 90 al 92 più o meno, c'era una gran parte veniva tradotta, ma altrettanto che veniva recensita direttamente in Italia, spesso venivano integrate, per esempio si faceva la traduzione di un videogioco, poi si integrava con dei commenti italiani, sai, i commentini, quelli con le faccine, sì, eccetera, sì, sì, sì. O i box laterali, quindi veniva fatto un 50-50. Generalmente il voto del videogioco veniva dato da un redattore, quello che recensiva il videogioco, se stiamo parlando della recensione, diciamo, italiana, se invece era quella di tradotta si prendeva il voto che veniva dato sulla rivista inglese. Quello italiano veniva dato da un redattore, alcune volte poteva succedere che però si discutesse per modificarlo perché qualcuno non era d'accordo, questo era abbastanza comune, però generalmente uno dava il voto, quello era fine, non si discuteva. In alcuni casi gli unici che erano al corrente di tutti i voti erano Bonaventura e Marco Letta, gli altri noi sapevamo i nostri, qualche volta ci confrontavamo con gli altri redattori su qualche, ma non conoscevamo fino all'uscita della rivista chi aveva recensito come di tutti i voti, perché poi non c'era neanche il tempo fisico, tra parentesi, per confrontarci su queste cose qua. Quindi gli unici che potevano dare un giudizio sempre trasversale erano Marco Letta e Bonaventura. Mi ricordo le discussioni sul 99% che diede Bonaventura a, che erano shot em up, Menace forse, non mi ricordo, cioè mi ricordo che lui gli diede 99, poi quando uscì noi gli altri redattori non lo sapevano, dicevano no, come mai gli hai dato 99, è troppo, non è così bello, eccetera eccetera. Vabbè, discussioni di questo tipo. La consegna dei giochi quindi avveniva in redazione, c'erano dei giochi che erano predestinati, tipo ai Baldaccini, Bros, William e suo fratello, gli si dava sempre i giochi tipo della SSI, quelli che avevano il manuale di 8000 pagine, i wargame mattoni eccetera, perché non li voleva nessuno quei giochi lì, li facevano solo loro, che erano gli esperti in quella sezione lì. Poi c'erano i videogiochi per Spectrum, li facevo io perché ero l'unico vero Spectrum a casa su Zap, e poi gli altri videogiochi un po' si discuteva, eccetera, cioè, c'era un po' di chi c'era in redazione che se lo beccava. Alcuni giochi, quelli più belli, di solito più attesi, li prendeva sicuramente Marco Auletta, perché era il primo lì in redazione, se lo cuccava lui. Però di solito su quelli più famosi si faceva una recensione in due o in tre, nel senso si discuteva in due o tre persone, poi si mettevano i commentini. Spesso in alcuni numeri Zap vecchi, alcune recensioni con commenti con le faccine degli inglesi, TVRG, Michael, eccetera, in realtà non erano traduzioni, ma erano pezzi veri fatti da alcuni di noi, che però all'epoca, all'inizio, non avevamo le faccine, perché sono state fatte dopo, e quindi venivano pubblicati con la faccina di quello di un redattore inglese che non eravamo noi, insomma. Però in realtà non erano traduzioni in alcuni casi. Che bello, praticamente abbiamo messo il sogno del giornalista, mettere in bocca a qualcuno quello che non ha detto. Sì, ma come ti ho detto, cioè, la vostra mi ha fatto sorridere prima quando diceva la serietà non c'era serietà a quell'epoca, lasciamo perdere, era proprio un marasma totale, si facevano le cose così per uscire in edicola e via, si divertiva, non si dava neanche importanza, tra virgolette, non ci rendevamo neanche conto che qualcuno potesse leggere quello che noi scrivevamo. Ce ne rendevamo conto dopo, quando arrivavano le lettere, che qualcuno effettivamente leggeva quello che noi scrivevamo. Vi ricordo, ecco, un altro fatto che ha iniziato in quegli anni, perché come ho detto prima, nel 91 è iniziato a esserci la protezione da parte della SIAE del diritto sul videogioco, quindi ci furono i primi importatori, la Leader, la CTO, eccetera, che iniziarono a essere pressanti sulla protezione del videogioco originale. Però siccome non avevano i diritti per importare tutti i videogiochi, alcuni arrivavano per importazione parallela, eccetera, Leader, che era uno sponsor importante, cioè perché Games Machine e Zappa all'inizio sono stati piedi grazie alle pubblicità di Leader e di CTO, non per le vendite, ma per le pubblicità che ci facevano sopra. E mi ricordo che c'era una pressione su alcuni titoli di non dargli troppo poco perché erano distribuiti da Leader. Questo non lo ricordo. Mi ricordo che ci fu un titolo recensito da Max Renault che gli voleva dare pochissimo, invece fu costretto ad alzare il voto. Fidane, pur rimanendo lì la recensione. Questa è una cosa molto forte, finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di dirla. Cioè, una cosa del genere è successa anche a me quando lavoravo per PC pratico, mi dicevano, appunto, quando facevo le prove comparative dell'hardware, e dicevo: ragazzi, questi sono nostri insomma, gente che ci paga la pubblicità, per cui non possiamo scendere sotto una certa soglia. Lo si sapeva e allora infine il voto numerico non corrispondeva effettivamente a quello che c'era scritto, però sai, esatto, era sì, un mondo diverso, lo sappiamo, io lo so, lo sai anche tu, cioè era molto più naif. Sì, è vero, esatto, diciamo naif è una bella definizione, più gentile. E a te mai capitato? A me sui videogiochi no, mi è capitato dopo, perché io poi quando andai in Jackson non feci più riviste videogiochi, perché fu chiamato per andare in Jackson con Fabio Rossi per fare CPVG. Poi io in realtà lì conobbi Massimiliano Anticoli e anche poi Stefano Paganini, che è il desaparecido di oggi, Stefano, che lavoravano su Amiga Magazine. Io, essendo molto tecnico a quell'epoca, poi appassionato di Amiga, che in quegli anni era, diciamo, la piattaforma top di quell'epoca, andai a scrivere per Amiga Magazine. Quindi passai a recensioni, quindi, di hardware, di software, software grafico, schede acceleratrici, eccetera. E mi capitò, appunto, di avere, non dico delle pressioni, però delle schede dell'Arbital, che erano prodotte in Italia, che faceva pubblicità su Amiga Magazine, mi dicono non parlare troppo delle cose negative, diciamo, di questa scheda. Parla solo delle cose positive. Ho detto ok, va bene. Insomma, capitò dopo, in seguito, in quegli anni era abbastanza normale, anche perché comunque l'editoria tradizionale, videoludica, non videoludica, è sempre stata supportata dalla pubblicità, non dalle vendite, cioè il guadagno vero non si fa dalle vendite, a meno che non sia una rivista che vende veramente numeri esorbitanti, ma dalla pubblicità che fanno gli inserzionisti sopra la rivista. Questa è una cosa che è sempre valsa per quasi tutto, per il 99% dell'editoria. Sì. Partiamo dal Corriere della Sera fino ad arrivare probabilmente a Sorrisi e Canzoni, nel senso, esatto. Il numero di vendite comporta, secondo me, un aumento del bacino di utenza, ma non un aumento del fatturato, perché comunque se una rivista, che ne so, vende 10.000, 100.000, 1 milione di copie, adesso stiamo dando i numeri veramente a caso, anche i costi di produzione, visto che appunto questa roba è fatta di carta, deve essere trasportata da qualcuno da una parte all'altra, eccetera eccetera, ha dei costi. Il fatto di allargare il bacino di utenza, nel senso, aumenta anche la portata della pubblicità, per cui, nel senso, se la stessa pubblicità viene vista da 10.000, 100.000, 1 milione di persone, ha dei valori differenti, ed è quello che tiene in piedi il giornale cartaceo. La stessa cosa adesso vale sull'editoria elettronica, di cui magari parliamo più avanti. Fondamentalmente l'editoria elettronica, tranne casi eccezionali, è sempre free, gratuita, e vive sull'inserzione pubblicitaria. Però ripeto, di questo potremmo parlare a lungo, perché visto come a noi è capitato di dare un voto più alto a un set di casse 5.1, a te una scheda grafica, chissà cosa succede quando si parla di un film o di un'automobile o che altro. Infatti la bellezza di Inter, secondo me, è il fatto che tu puoi confrontare le fonti. Prima non lo potevi fare, cioè era più difficile, diciamo, più complicato. Comprai 3-4 riviste, leggevi 3-4 recensioni, però erano tutte filtrate da quella che era la redazione. Su internet c'è il senza filtro, quindi sì, leggi la recensione ufficiale, però vedi anche poi i commenti veri degli utilizzatori veri, reali. C'è un filtro più realistico, secondo me, grazie a internet, alla moltitudine che dà la possibilità di avere. Però questo è un parere personale, poi come giustamente hai detto, qua si potrebbe parlare per giorni, non per ore. Esatto. E anche perché devo dire che nell'editoria, vorrei fare un ultimo gancio, nell'editoria attuale i confini sono molto più labili. Una volta c'era la rivista, che era un oggetto fisico, tu andavi in un'edicola, che era un posto dove si vendevano solo riviste, compravi la rivista, andavi a casa, te la leggevi, ed era molto confinato. Adesso non solo la rivista si può comprare di fianco al banco della frutta del supermercato, e già questo potrebbe stare a significare un sacco di cose, ma fondamentalmente non c'è più il concetto stesso di rivista, c'è il blog, c'è l'opinione, e insieme a quello c'è il compralo su Amazon, cioè è tutto un insieme molto più fluido, molto più liquido, per cui è più facile e anche allo stesso tempo più difficile capire che cos'è fonte attendibile e cosa è utente, cosa è troll e cosa è pubblicità occulta, nel senso, c'è il venditore che si traveste da cliente e si autorecensisce. Però potremmo andare avanti a lungo e non è quello lo scopo di questa trasmissione. E invece parliamo di cose più divertenti. Come era vissuta la concorrenza? Nel senso, non c'eravate solo voi, come guardavate gli altri? Allora, è vero che non c'eravamo solo noi, però eravamo veramente in pochi, ci conoscevamo tutti alla fine, poi si passava da una parte all'altra, diciamo che era una cosa abbastanza, era un mondo molto piccolo, infatti più o meno ci conosciamo quasi tutti quelli di quel periodo lì, sia dalla parte di... dove ho lavorato io, ho lavorato prima in edizioni Hobby Xenia e poi in Jackson, però conoscevo benissimo Albini Rossetti, Ur, gli altri di K, e Simone Crosignani andò a lavorare poi con loro, e poi fece la Futura Publishing, eccetera, quando io poi smisi, perché io poi ritornai a fare, diciamo, il programmatore di videogiochi poi verso la metà degli anni 90, facevo dei videogiochi per le sale giochi basati su hardware Amiga per la CD Express di Settimo Milanese, e francamente ti devo dire che non ci consideravamo tra virgolette nemici, nel senso che magari sulla carta c'erano delle battute, si facevano battute uno con l'altra, ma il mercato era abbastanza, diciamo, il mare era abbastanza largo per tutti, quindi non c'era una guerra vera e propria di tipo ti rubo i lettori io, mi rubi i lettori tu o cose di questo genere. C'erano delle lotte di magari basate più su simpatia antipatia, mi ricordo Fabio Rossi che discussioni eccetera se ne andò anche per questi motivi qua. Io essendo un gradino sotto, io non sono mai stato caporedattore o quello che faceva la rivista, ho sempre lavorato come pubblicista, quindi quello che scrive, mi chiedevano fai questo, scrivevo quello, lo portavo in redazione eccetera, quindi non ho mai partecipato, diciamo, alle guerre che stavano sopra di me, però anche queste sono tutte abbastanza, diciamo, tra virgolette labili, anche perché, come ho detto, a quell'epoca stiamo parlando di un mondo in cui veramente tutti vendevano, tu uscivi in edicola. Ho scoperto che c'erano delle riviste di videogiochi recentemente che non avevo mai neanche visto all'epoca, alcune le avevamo viste, alcune venivano fatte da gente che con i videogiochi non c'entrava nulla, ma siccome in edicola vendevano riviste di videogiochi, allora volevano uscire anche loro con delle riviste di videogiochi. Mi ricordo che ne uscirono un paio che proprio erano assurde all'epoca, però quelli non sapevano neanche chi fossero, diciamo che quelli che parlavano di videogiochi, appassionati di videogiochi, ci si conosceva tra di noi. Conoscevo tutti. Anche perché era tutto basato a Milano, erano tutti di Milano. Quasi tutto a Milano, c'era un qualcosa a Roma, ma era più nell'ambito dei computer, che poi aveva derivazione sui videogiochi, però sui videogiochi sì, era tutto, all'epoca era tutto a Milano, perché Studio Vit, Milano, edizioni Hobby Milano, c'era Commodore Gazette, se non mi ricordo male, a Roma. Li conoscevo anche loro perché poi vabbè ci si ritrovava nelle fiere o negli eventi, diciamo, dedicati al videogioco, che ai tempi erano a Milano. Il SimaiFi era a Milano, che è stato in quell'epoca la fiera principale. Ah, ecco, beh, c'era quella dei videogiochi arcade che era in Emilia Romagna, ecco. Emilia Romagna, Bologna e la zona dell'Emilia Romagna era è stata in quell'epoca l'unico bacino di forse di produzione di videogiochi, sia dal punto di vista arcade precedentemente con la Zaccaria che poi con la Simulmondo. Poi c'è stata la Genius, l'Idea, che erano una Genova, se non mi ricordo male, l'Idea non mi ricordo più. Passati troppi anni, inizio a dimenticarmi. Sì, comunque la Milano sicuramente era il centro del mondo videoludico di quell'epoca, sicuramente. Su questo non c'è possibilità di sbagliarsi. E mia fortuna, abitavo a Settimo Milanese all'epoca, quindi c'è stato anche quello. Sì, io sono nato e vissuto a Settimo Milanese fino a 28 anni. Matteo Bittanti era a Cornaredo. No, lo so, ma Matteo lo beccavo sul pullman quando andavamo a scuola insieme. Cioè. Ah, vedi? Beh, allora magari ci siamo visti anche noi. Probabile, sì. Ma tu quanti anni hai? Di Cano 6. Io sono del 70, io ho 42. 74, sono proprio juven. quindi va appena, quindi siamo lì, dai. Hai visto anche te Goldrake, Gig? Sì, assolutamente. Sei di quel mondo, insomma. Sono di quella fascia. Roberto è un po' più giovane. Bello questo momento, caramba, che sorpresa, comunque. Nel senso... Vabbè, comunque con Matteo eravamo amici, siamo ancora amici, anche se ormai è un po' difficile vedersi perché lui è più americano che italiano, quindi è un po' difficile incontrarsi. Con Matteo nel 91, io, Matteo Vittanti, Simone Crosignani e qualcun altro, non mi ricordo più, abbiamo fatto il... come si chiama quello con i treni che va in giro per tutta l'Europa, prendi il biglietto? L'Interrail. Interrail, bravissimo, estate del 91. Interrail, siamo andati a Parigi, Londra, Bruxelles, Copenaghen, siamo tornati dietro per Berlino, un'estate incredibile, me la ricordo. Vabbè, eravamo amici, quindi giravamo, ci divertivamo, gruppo di redattori, ma anche amici tra di loro, quindi questo traspariva dalle pagine della rivista, si vedeva quel periodo lì di Zap, di Games Machine, era proprio, veniva fuori il fatto che eravamo un gruppo di amici che si divertiva e che poi parlavamo di videogiochi perché ci piacevano, insomma. E magari mi aggancio a questa cosa qua, nel senso che un po' mi piacerebbe che ci raccontassi del discorso opposto che hai accennato, e sì, appunto per agganciarci anche a quello che magari il passami il termine, il primo social network in Italia, che era appunto stato sia Zap che Games Machine, nel senso che era appunto un punto di ritrovo per gli appassionati. Sì, la posta era un aspetto fondamentale della rivista, perché era molto molto letto e veniva... Matteo lo gestiva benissimo, infatti è lui che ha creato, insomma, l'ambiente che stava intorno alla posta. Io l'ho preso, tra virgolette, un pochino immeritatamente il suo posto, anche perché ero l'unico che tra virgolette ha avuto il coraggio di proporsi come sostituto di Matteo a quell'epoca, perché nessun altro voleva, diciamo, prendere le redini di quello che aveva creato Matteo in quell'ambito. Proprio l'hai definito social network, è abbastanza indicato, perché c'erano dei personaggi che ritornavano, degli iscritti che venivano commentati, eccetera. Io, quando ho preso l'angolo della posta da Matteo, arrivavano veramente centinaia di lettere e le leggevo tutte, questo posso assicurare, le ho lette sempre tutte quelle che arrivavano le leggevo. Un lavoraccio trascriverle. Poi usavo il C1 Text su un Amiga 500, quindi stiamo parlando veramente, soprattutto la notte mi mettevo lì a trascriverle, a scegliere quelle più importanti. Si vede il cambiamento tra quando la gestiva Matteo e quando gestivo io, perché ho iniziato a dare più, tra virgolette, importanza a delle lettere che affrontavano degli argomenti più tecnici e meno filosofici, se vogliamo prendere il nome di Matteo, quindi meno legati a quello che era l'ambito dell'argomento del divertimento del videogioco, ma magari deviavano un pochino di più sull'aspetto tecnico del videogioco stesso, insomma, quindi qualcosina un pochino più quello che ho citato prima, scroll, parallassi, cose di questo genere, anche perché poi io mi trovo a mio agio a dare commenti da un punto di vista tecnico, anche se poi c'era sempre un qualcosa di divertente intorno, quindi ci si costruivano poi storie, si facevano commenti, si lavorava a quattro mani, perché poi io scrivevo la prima stesura della posta, poi la rileggeva Marco Oletta, che ci metteva i suoi commenti. Io potevo rispondere a volte ai commenti di Marco prima che venissero pubblicati, poi c'era anche Buonaventura che alla fine correggeva tutto prima di pubblicare e metteva anche i suoi commenti sopra, quindi era proprio, se vogliamo, proprio come dici tu, un tipo Facebook in cui uno commentava gli iscritti degli altri a riprese successive, ecco, questo si vedeva nella posta dell'epoca. È stato comunque un periodo molto faticoso, divertente, faticoso perché in un mese dall'altro fare, leggersi tipo 400-500 lettere, trascriverle, scrivere i commenti, arrivavo sempre all'ultimo minuto secondo in redazione con il dischetto il giorno prima che deve essere pubblicato, la notte si impaginava la rivista. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che allora non esistevano le email, cioè esistevano ma non erano cose che era per la gente. Esistevano, ma io la mia prima email era dell'89, ma ero l'unico ad avere un'email, gli altri non sapevano neanche cosa fosse. Esistevano i modem, però a quell'epoca, nei primi anni, stiamo parlando proprio dell'inizio della informatizzazione, perché io sono passato in quegli anni, ricordiamo, quando ho iniziato a collaborare con l'assistenza editoriale negli anni 80, le riviste si impaginavano ancora a mano con il tavolo retroilluminato, tagliando le diapositive, incollandole sopra i fogli e facendo la fotografia. Con Buonaventura nel 91 ha iniziato a usare il desktop publishing con un Mac 2 che era un 68030, eccetera, quindi abbiamo fatto proprio la transizione da tutto a mano all'inizio dell'informatica, dell'impaginazione elettronica delle riviste. Erano quegli anni lì che successe. Mi ricordo in Jackson che quando andavi lì c'era il corso per gli impaginatori tradizionali per insegnargli a impaginare in desktop publishing, quindi passavano dal tavolo retroilluminato a mano con le forbici, lo scotch, al desktop publishing sui primi Macintosh, mi ricordo ancora adesso l'esclamazione di uno di quegli impaginatori alla fine del corso che dice, uscì fuori dicendo: ah, ma allora non fa tutto il computer, perché a quell'epoca il computer era visto come un'entità onnisciente che andavi lì e gli dicevi, perché c'era questo immaginario. Non è che la gente normale, tra virgolette, conoscesse i computer all'epoca, si vedevano nei film, nei telefilm, e spesso venivano presentati come delle macchine super intelligenti che parlavano e rispondevano alle domande, eccetera eccetera. Quindi era qualcosa di molto molto diverso da adesso, che invece tutti conoscono i computer e li usano, o comunque li hanno visti, sanno di che cosa, questo cosa stiamo parlando. Questa è informazione forte, sappilo. Sì, però adesso dai, nessuno può andare in giro, anche a tuo nonno gli chiedi, non penso che lui creda che il computer ti risponda parlandogli. A quell'epoca sì, ma sul serio, nel senso che c'erano persone che erano convinti che i computer erano quelli che si vedevano nei film, che quindi erano delle entità oniscienti. Ma tanta gente considera che quando io facevo le mie prime cose sullo Spectrum, quando facevo ancora il liceo, e andavo a farle vedere magari a qualche adulto, che gli facevi vedere: guarda, questo l'ho fatto col computer, ti guardava come dire: sì, l'ha fatto il computer, cosa vuoi che hai fatto tu, l'ha fatto il computer, mica te, capito? Sì, sì. Cioè, era questo. Però potrei raccontarti di miei colleghi che mi dicono: ti giro la mail e poi dopo due minuti sento il fax che parte, quindi okay, ma tu sei veramente un caso a parte. Sì, probabilmente li trovo tutti io, però vabbè. Se ti racconto cosa succedeva in quegli anni, quando gli abbiamo detto a uno: manda questo via fax, lui è andato di là, ha iniziato a fare le fotocopie, e gli abbiamo detto: ma perché stai facendo le fotocopie? Poi se lo mando via fax, come faccio poi a riportartelo? Perché lui era convinto che mettendo i fogli nel fax, questi venivano mangiati dal fax, smaterializzati e spediti dall'altra parte. Il teletrasporto antelittera. Esatto. Quindi, questo è per darti un'idea. Comunque, sai che non mi ricordo più di che cosa stavamo parlando? Della posta, dici la verità, quante lettere avete inventato? No, mai. Mai? Probabilmente io mai. È arrivato in un momento dove non c'era più bisogno. Io mai, forse Matteo, ma non, francamente non gliel'ho mai chiesto, o forse me l'ha detto ma non mi ricordo, bisognerà chiederglielo. Io mai, giuro, anche perché ne arrivavano talmente tante e non c'era bisogno, veramente non c'era bisogno di inventare lettere. Invece l'ultima domanda che ti voglio fare, anche tu sei uscito dall'ambiente, nel senso in cui costruivi, sì, adesso eventualmente fruisci di informazioni. Parliamo del futuro dell'editoria, nel senso, adesso come adesso l'editoria cartacea lo vediamo nelle edicole, non esiste più, le edicole sono tutte in vendita, tutte le edicole che io vedo in giro, sì, hanno fuori il cartello cedesi attività, alcune regalasi, certo, attività, alcune prendetevela, vi pago se vi togliete le coglioni sto coso. Sì. L'editoria è cambiata, ma perché fondamentalmente è arrivato mamma internet ed è diventato tutto gratis. Direi che sta cambiando, non è che è ancora cambiata, Sopravvive. Purtroppo tenta di sopravvivere, ma è destinata a soccombere. Ok, detto questo, io mi sono reso conto che rispetto a 3-4 anni fa ho modificato il taglio di riviste che acquisto. Prima di tutto, ormai quelle fisiche non le compro più perché hanno dei costi che non riesco più a sostenere, la crisi ce l'ho anche io. Le uniche riviste che io compro ancora sono riviste che non parlano più di argomenti, nel senso dal punto di vista delle news, ma fanno delle analisi approfondite, cose, sì, che io, ripeto, io sto parlando di riviste che io compro, cioè io verso dei soldi a qualcuno perché lui mi dia in cambio qualcosa, e quel qualcosa che mi danno in cambio sono informazioni che non posso trovare sulla rete gratuitamente, perché non hanno questo livello di approfondimento, cioè non c'è più la news, perché la news arriva in tempo reale, dopo 10 secondi che c'è stata una comunicato stampa in qualche modo arriva a casa mia di quello che mi interessa. Però l'analisi vera e propria è qualcosa che ancora secondo me ha senso. Secondo te ha senso anche nel mondo del videogioco? Allora, sì, però giustamente il target si riduce moltissimo, ovviamente. Però è vero, nel senso, quello che dici tu è giusto, infatti è esattamente la stessa cosa che faccio io ormai da diversi anni. Se acquisto delle riviste in edicola, sempre meno, devo dire, anche ultimamente sempre meno, anche quelle specialistiche molto approfondite, anche perché anche quelle stanno scomparendo, tra virgolette, oppure stanno appaiono dei siti dove magari c'è questo approfondimento ulteriore anche online, e tra virgolette, se magari in futuro quelli diventano a pagamento, io andrò a pagare i siti e non le riviste, cioè tra virgolette sarà difficile che compro qualcosa di fisico anche in futuro. Comunque sì, l'unica speranza di poter guadagnare dal contenuto è produrre un contenuto molto molto molto approfondito, molto molto tecnico. Nell'ambito del videogioco, un approfondimento di questo tipo io lo vedo solo per addetti ai lavori, tra virgolette. Difficilmente credo che un utente hardcore gamer, non lo so, forse, però io non lo sono, quindi sto parlando di una cosa che non so, perché io non sono un hardcore gamer, quindi non ti so dire quale livello di approfondimento vorrei. Bisognerebbe chiederlo a un hardcore gamer per vedere se sarebbe disposto a pagare un contenuto di livello approfondito. Di sicuro non quello che gioca con i giochi della Wii o mercato attuale del videogioco. Volete ridere? Cioè, mio fratello, che è un hardcore gamer di vecchia scuola, di quelli che dice che aborra la Wii, cioè nel senso, secondo lui è tutto, sì, è contro tutto quello in cui lui crede, esatto. Da 2 anni si fa regalare da me a Natale l'abbonamento a Retro Gaming, la rivista UK. Approfondisco la storia del videogioco, esatto, giusto? Aspetta, cioè, se vuoi conoscere una cosa, devi conoscerne la sua storia, è logico, è chiaro, da dove come mai siamo arrivati dove siamo. È ovvio che se tu non sai che cosa è successo prima, non puoi capire cosa sta succedendo adesso. Mi infilo un attimo, perché tanto so che Carlo ha questa peculiarità, che ha una serie di aneddoti impressionante. Se vuoi raccontarcene uno o un paio, giusto per farci sorridere e ricordarci un po' di quei tempi. Uno l'ho già raccontato, però adesso vado nella memoria, ne ho talmente tanti che poi faccio fatica a decidere quale dire in questo momento. Ce ne sono diversi. Allora, mi ricordo quando nella correzione delle riviste, Buonaventura era quello che impaginava, come ho detto, la rivista, però Marco Letta viveva in redazione fisso, quindi spesso lui accedeva al Macintosh dove veniva impaginata la rivista prima di uscire e molte volte ha inserito delle cose che sono state poi pubblicate senza che Buonaventura se ne accorgesse, come per esempio nel Colophon c'era la grafica della redazione, quella che faceva i titoli eccetera eccetera, che era abbastanza gnocca, e Marco i nomi vogliamo i nomi, non mi ricordo più i nomi, guarda, ti giuro, Daniela, non mi ricordo più. Comunque nel Colophon Marco scrisse, aggiunse una N tra gra e fica, diventò gran fica. E cioè, se guardate, se cercate il numero, vedrete che in un numero del Colophon esce gran fica, 2 punti, il nome della grafica di redazione. Questa è una. A ricordarsene tutte, francamente, c'era quella di quando vedemmo Kenny il guerriero, lì Marco fu chiamato l'uomo minchia per mesi dopo. Continuava a dire minchia, minchia. L'uomo minchia, perché quando, ecco, non l'ho detto, quando vedemmo quel film lì di Kenny il guerriero in giapponese non sottotitolato, siccome i videoregistratori che facevano vedere l'Eni e TSC erano rarissimi, io ripresi con la telecamera il televisore per registrare su una cassetta PAL il film di Kenny Guerriero. Peccato che ovviamente c'era Marco che diceva minchia ogni 5 minuti di sottofondo, e finì in quella cassetta che poi distribuì tra gli amici. E quindi da quello il soprannome poi di Marco. Oh minchia, perché veniva commentata così. Infatti la cassetta la chiamai Ken Jalappas, perché era commentata da Marco in sottofondo. La Jalappas Band, che tra parentesi conosciamo realmente, non so se lo sapete questo, quando facemmo la recensione dei mondiali del 90, quando la Jalappas commentava le partite del mondiale, ci fu la prima volta la ripresa dall'alto con la telecamera, non so se ve lo ricordate questo, la ripresa del campo da sopra, che ricordava molto la visuale di Kickoff, del gioco di calcio di Kickoff, e Marco Santin della Jalappas disse testuali parole, mi sembra di giocare a kick-off. Noi sentimmo quello e andammo alla radio portandogli una copia in anteprima di Kick-Off 2. E lui fu molto contento e lì conosciamo la Jalapas, anche perché all'epoca c'era Giorgio Baratto, io, Carlo Sant'Agostino e Marco Auletta, che erano proprio Giorgio, Carlo e Marco, come la Jalapas. Infatti arrivavano le lettere in redazione chiedendo se eravamo noi in realtà la Jalapas Band. E noi diciamo no, non siamo noi, ci chiamiamo uguale ma non siamo noi. Come vedi, ho fatto bene, Alex, a stuzzicarlo. Assolutamente, qua siamo... Grondano lacrime napoletane che neanche Dragon Slayer la volta scorsa. Dragon Slayer che mi ricordo uscì per la versione Amiga, quella fantastica che sembrava all'epoca cartone animato come quella del bar. Mi ricordo che fu uno dei titoli più desiderati in redazione. Ci fu una lotta per accaparrarsi il titolo quando arrivò per farne la recensione, e io lo recensii anche in una trasmissione televisiva, perché a quell'epoca c'era Angoli su Antenna 3 e veniva condotta prima da Stefano Gallarini, che poi andò su Italia 1 a fare quell'altra trasmissione che non mi ricordo più come si chiamava, con Marco, e io andai a sostituire Marco su Antenna 3, andai a sostituire Stefano su Antenna 3 e recensi proprio Dragon Slayer, me lo ricordo, nella prima puntata. Questa è una chicca d'annata. Assolutamente sì. Dobbiamo trovare qualche filmato da trasmissione. Devo avere le VHS da qualche parte, ma come ho già detto, se ci metti dentro anche ordine... due minchia va benissimo. Noi... okay, a noi ci piace il minchia. Richiamo Marco e gli chiedo di inserire qualche minchia d'annata. Perfetto, e dopo questo bagno di ricordi con tantissime lacrime napoletane che neanche Dragon Slayer, tanto per ripeterci, salutiamo Carlo che è stato veramente prezioso, ci ha riportato indietro quando io personalmente ero bambino, non che adesso sia molto meno bambino, però allora ero più bambino anche anagraficamente parlando. Ti salutiamo, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento a quando vuoi tornare con noi. Grazie a voi e sono a disposizione come volete, quando volete. Me ne pentirò, lo so, grazie. Va bene, grazie Carlo. Grazie Carlo, ciao. A presto. Ciao. Attenzione, attenzione, notizia dell'ultima ora, breaking news. Ecco chi è tornato, chi è arrivato, depositato dall'astronave degli alieni. Signore e signori, direttamente dagli anni 80, Stefano Paganini. Proprio dagli anni 80, nel senso del 1880, ok? Ciao a tutti! Sì. Ciao, ciao, come stai? Cosa succede? Ti abbiamo visto scomparso dall'orizzonte. Sono qua presente in salute, grazie, molto gentile. Ok, con il tuo solito tono molto allegro. No, dai. Oggi non c'è scaletta, ma abbiamo un altro archeologo che è andato in giro per il mondo a scovare delle cose, perché qui abbiamo Paganini Stefano, mi piace, diciamolo proprio al contrario. Sì, che è a scuola, cioè, sai... Paganini. Diamo anche il codice fiscale. Paganini Stefano che è andato a scovare gli artefici di quelli che furono i primi bits digitati e stampati. Ma Stefano, raccontaci tu. Allora, sono andato a intervistare rispettivamente il fondatore e uno dei principali collaboratori di quella che è stata un'avventura editoriale italiana molto molto importante, cioè RAN. RAN era una rivista su cassetta, o meglio non era una rivista, era proprio una cassetta che era in edicola. La cosa al giorno d'oggi, cioè il fatto di mettere un altro media in un pacchetto in edicola è abbastanza comune. Noi ormai troviamo i DVD, non troviamo più le videocassette, troviamo le compilation di giochi, eccetera eccetera. Ma nel 1983 andrà anche solo, come ci racconta Simone Maiocchi, andare a registrare una testata giornalistica che in realtà non avesse il giornale ma che fosse soltanto su una cassetta, ha suscitato notevoli problemi ed era molto originale. Teniamo conto che allora innanzitutto si usavano le cassette audio. Alzi la mano chi se le ricorda ancora. Alex? Io la alzo, ma non si vede probabilmente nel podcast. Ecco, no, è che vedo poche mani alzate comunque all'orizzonte, perché credo che siano veramente pochi a ricordarselo ormai. Il software era su cassetta. Era un'epoca in cui i listati o te li digitavi a mano, per cui le riviste erano piene di dei famosi listati, cioè proprio del listato del programma, del codice del programma, tipicamente in basic o in linguaggio macchina. Il linguaggio magico era ancora peggio che andare di notte, perché era da inserire milioni e milioni di esadecimali di codici veramente astrusi, poi alla fine scoprire che il programma non funzionava. Molto spesso sì, e che ha aiutato molti, tra me compreso, a imparare a programmare o a tentare di imparare a programmare. Nel caso di Simone Maiocchi l'approccio è stato molto originale, innanzitutto di dare copertina e tutto il resto alla rivista, tutto sulla rivista, cioè sulla cassetta. Quindi tu caricavi la cassetta che in realtà era la rivista, né più né meno. Gli articoli erano dei programmi, quindi ha tentato di dare risalto all'aspetto della programmazione, della creatività e soprattutto dell'originalità dei contenuti. È stato seguito a ruota da altre testate simili anche nel nome, sia per Spectrum e soprattutto per Commodore 64, che non facevano altro che rimpacchettare dei giochi disponibili commercialmente, magari cambiando la dizione da inglese all'italiano, magari modificando un po' di cose, ma sostanzialmente erano gli stessi giochi craccati. E insomma, Run ha tentato di mantenere per quanto possibile un profilo molto più alto, costruendo da parte della redazione, cioè di Simone Maiocchi e di chi ha lavorato, costruendo loro stessi i programmi che visualizzavano la rivista e costruendo loro stessi i programmi che erano contenuti all'interno della rivista. Quindi probabilmente non dei giochi fighissimi, ma dei giochi fatti a mano, ecco. Sì, sì, bello quei tempi dove fondamentalmente chi usava il computer sapeva anche aprirlo, nel senso fondamentalmente di programmarlo, non c'era una differenza netta tra sviluppatori e utenti, fondamentalmente si era un po' tutti e due. Sì, molto, anche perché poi tu accendevi il computer ed eri in basic, cioè in realtà dovevi già fare qualche cosa con il linguaggio di programmazione. Poi vabbè, che la maggior parte degli utenti Spectrum o Commodore 64 ricordino soltanto Shift e Run Stop e Load virgolette virgolette, perché era quello che serviva per caricare i giochi, vabbè, questo è un altro par di maniche. Come sei polemico, in realtà anche quello era programmare. Anche quello era programmare. Adesso non si fa più così, ma si clicca da qualche parte, possibilmente con un dito. Comunque, nell'intervista Simone racconta del dito... Simone comunque racconta anche del progresso di Run, cioè di quello che è stato la sua prima creatura editoriale, che era lo ZX User Club, che era dedicato allo ZX81, quindi a un computer ancora precedente allo Spectrum, e che era una specie di ciclostilato rivoluzionario stampato molto in proprio e fatto in maniera molto artigianale, ma che è meraviglioso, ecco. Dello ZX User Club provvederemo a mettere online alcune scansioni di alcune pagine, giusto per dare un'idea di che tipo di pubblicazione meravigliosa fosse. Per quanto riguarda invece Run, sono disponibili sia online tutte le raccolte delle cassette per gli emulatori, e poi comunque sono già state scansionate ampiamente, daremo l'indirizzo di alcuni dei vari siti che rendono disponibile ancora questo materiale. E non solo, io aggiungerei che daremo una maglietta di archeologia videoludica al primo che dimostrerà di aver digitato uno di questi listati, non con l'OCR, proprio vogliamo il filmato dove lui digita a mano tutte queste cose. Sadismo puro. Assolutamente sì. Vabbè, a questo punto direi che senza indugi facciamo partire la prima intervista, quella a Simone Maiocchi. Vai Simone Maiocchi, fondatore di Run. Interview. Pork Do. Allora, benvenuti a tutti, siamo qui in questo momento con Simone Maiocchi, un personaggio storico della vecchia scuola di internet. Siamo a Milano, siamo in giro nella città, perché era la Milano che viveva Simone Maiocchi negli anni 80, nei primissimi anni 80, anni che adesso ci racconterà. Ciao Simone. Buongiorno Stefano, sì, siamo qui per un motivo secondo me abbastanza curioso. Siamo praticamente a 300 metri da dove è nato tutto il discorso di Run, perché siamo a 300 metri dalla vecchia redazione di Elettronica 2000, che è stato il luogo dove ho iniziato a scrivere di ZX80, dove ho scritto di IM65, dove ho scritto i miei primi articoli. Ho fatto un libro scritto con la macchina per scrivere, mi ricordo che erano tipo 80 cartelle dattiloscritte che poi sono state ciclostilate, pinzate e pubblicate con una copertina rossa, ed era i miei primi programmi con lo ZX80, una cosa del genere. Comunque siamo a 300 metri da lì. Allora, mettiamo il contesto. Primissimi anni 80, stiamo parlando dell'81-82. I computer erano ZX80, ZX81 e poi lo Spectrum. Tu mi hai fatto vedere prima un ciclo stilato che ricorda molto, diciamo, altri tempi. Sembra un ciclo stilato compilato dai terroristi. Che cos'è? Ma era terrorismo informatico praticamente. In realtà era lo ZX bollettino, nel senso che prima ancora che ci fosse uno spazio sulle riviste per parlare di home computing, ci siamo organizzati io con il caro amico Alberto Di Venti, che attualmente penso che faccia del tutto tutt'altro. Comunque ci siamo organizzati, eravamo appassionati di questo oggetto, e quindi avevamo dato vita, appunto, con lo stile del ciclo stile, una pubblicazione di 8 facciate. Con queste 8 facciatine cercavamo di fare un po' di cultura, era una circolazione su abbonamento ed era fatta in quel modo perché ai tempi le fotocopie costavano tanto, per cui se si ciclo stilava costava meno, poi usavamo la carta colorata, insomma ci davamo un tono. Curioso che ci fossero già gli stampati ottenuti con la mitica ZX Printer, quella che faceva le scintille, faceva una gran puzza sulla carta metallizzata, stampavamo i listati, e poi c'era anche dietro un business di vendita di listati più complicati che a questo punto potevano essere richiesti. C'era un abbonamento, quindi c'erano gli listati. Questa era un po' la realtà pre-run. Quindi sei sempre stato un editore, prima ancora che un informatico? Sono stato una persona che scriveva. Diciamo che è successo questo. Ero in quinta liceo e un mio compagno di scuola mi disse: senti, ho mio zio che è il direttore di una rivista che si chiamava Scienza e Vita, della Rusconi, e hanno bisogno di qualcuno che gli scriva qualcosa su una roba strana. È una cosa che tu ogni tanto mi racconti, perché vedo che traffichi nell'elettronica. Ha bisogno di una qualcosa che gli spieghi, faccio un boxettino sul microprocessore. Quindi era il 1980, io scrissi un articoletto, un box, su che cosa fosse il microprocessore. Me lo pubblicarono nell'ultima pagina di Scienza e Vita come box informativo, e dopo un po' di mesi mi chiesero il codice fiscale e mi arrivò un assegno a casa. Guardai l'assegno e dissi: accidenti, forse scrivere è un bel mestiere. Sta a vedere che è una cosa bella. Comunque diciamo che incominciavano e c'erano delle macchine pazzesche, c'erano ancora i PET 2001, c'erano pre home computing. E in questo modo, diciamo che essendo in una rivista, potendo viaggiare, potendo vedere, ho cominciato a scrivere parecchio. Si fa l'atto, facciamo i progetti. Mi ricordo sullo ZX80 un'espansione da 16K, pazzesco, piste, circuiti stampati a doppia faccia, delirio. E lì c'erano ancora collaborazioni con Alberto Di Venti e cercavamo di andare avanti in questo modo. Non sfuggire, il primo computer. Il mio primo computer? Ma il mio primo computer è stato... ma difficile a dire, perché ho messo le mani su questo IM65 dove si programmava in esadecimale. C'era un displayino, c'erano quattro display dove facevi comparire due numeretti, quindi al limite potevi farti la battaglia navale dove ti diceva AF, B5 o cose del genere. Poi è arrivato lo ZX80 bianco, bellissimo, montato, costruito, e poi da lì è partito tutto, perché poi c'era il filo diretto, c'era appunto con il potere della stampa si andava, si parlava con le aziende, si parlava con la GBC. Adesso però due parole, arriviamo a... dunque, dopo il primo ciclo stilato arriviamo a Run è la vera avventura. Allora, succede questo: la rivista dell'elettronica parla di elettronica, la rivista dell'elettronica pubblica i progetti, però lo spazio dedicabile al tema informatica di computer è sinceramente quello che è. Poi cosa succede? A fuori di lavorare sul computer ti vengono le idee. Quindi cosa succede? Arrivato dallo ZX81 si passa allo Spectrum. Quando arrivo allo Spectrum vedo che l'oggetto ha delle potenzialità, quindi pensa, e a questo punto cosa dico? Ma invece di fare una rivista su carta che si legge su carta, facciamo una rivista che è sullo schermo e che si legge sullo schermo. Quindi ho trovato una manica di pazzi scatenati che ha accettato di salire su questo carretto avventuroso. Elettronica 2000 era molto più legata all'aspetto cartaceo di progetto, quindi ho detto, sai che c'è, mi metto a fare l'editore, e quindi con altri tre personaggi che poi sono più o meno stati persi per strada e ognuno di questi ha avuto sorti diverse, è nata questa rivista su cassetta. Che è appunto una rivista su cassetta, cioè dentro una cassetta c'erano sia i contenuti che i programmi, che facevate voi? Allora, perché la genesi è stata semplice, perché da mezzo pazzo scatenato ho detto, appunto, il computer ti può far vedere le cose, ti può animare le cose, ti può fare dei suoni, e quindi perché continuare a saltare da una parte all'altra, da carta a tastiera e da tastiera a carta, invece di costringere la gente a digitare gli stati, noi gli stati glieli diamo già digitati, e quello che invece era la parte solitamente estranea veniva inserita nel computer. Quindi ho ribaltato il concetto della rivista cartacea con gli stati da trascrivere, ho fatto diventare rivista elettronica con gli stati già caricati, articoli da leggere a video. Praticamente ho fatto il classico salto, no? Pensi al contrario una cosa e viene a fare un prodotto nuovo. Questa cosa è andata avanti, non ti dico le vicissitudini, quando ho preparato il primo numero sono andato in tribunale, ho detto con il mio registratore a cassette, il televisore, il computer, ho detto ecco devo registrare questa testata. Il tizio del tribunale ancora me lo ricorda, è un ufficio che sale una scalinata, gira a destra, insomma dove depositi le testate, questo mi guarda, fa partire la cassetta, fa è un'audiorivista, faccio no è una rivista per un computer, e questo mi guardava molto strano. Partono i fischi, questo all'inizio voleva buttarmi fuori a pedata perché pensava che fosse uno scherzo goliardico. Poi tira fuori un foglio dove c'è scritto stampo stampati e tutto ciò che sono stati impressi con mezzo fisico-chimici su supporto cartaceo. Qui non vedo supporto cartaceo, non è un giornale. Me ne torno in ufficio, penso un attimino a cosa fare e dico sai che c'è? Stampo 12 schermate della rivista, quindi sommare, leggerenze, queste cose qua, le metto su carta, faccio un quartino, torno da questo signore qui e gli dico questo è il giornale, poi in regalo diamo la cassetta. Questo guarda il tutto, dice ah sì così va bene, e quindi mi concesso la registrazione della testata. Quindi tutto il descamotage è stato fare due stampe per poter registrare la cassetta? È stato fare, sono due quartini, otto facciate che sono rimaste in tutti i numeri, dove sostanzialmente il tribunale diceva questo è il giornale, poi il resto è l'allegato, e così la cosa è rimasta. Fra l'altro ho dovuto inventare una confezione per poter mettere in edicola le cassette, ho arricchito sostanzialmente i produttori di polistirolo, quelli che lavoravano il polistirolo, perché ci siamo inventati poi soluzioni tecniche tipo il taglio a L per fare lo scacco dove inserire la cassetta con un giro molto facile che rendeva il tutto più semplice. Quindi ho fatto nascere un business, chi duplicava cassette tutto d'un botto si è trovato a fare quantità mostruose di cassette che non erano più le cassette di Patty Brau piuttosto che Marcella Bella, ma erano delle cose strane che però venivano lette dal computer. Quindi io ho scelto la strada dello Spectrum, uno dei miei soci si staccò e scelse la strada del C64 cercando di dar vita a un'altra rivista su cassetta, e poi il mercato esplose perché sostanzialmente da una situazione di questo qui è pazzo alla caspita sta vendendo decine di migliaia di copie, fra l'altro il numero uno di Rana è andato in esaurito tecnico, una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettata, quindi erano 50-70 mila copie che circolavano data, anno? Era l'83, eravamo ormai nell'83-84, fra l'altro noi lo facciamo bimestrale perché non ce la facciamo a farlo più spesso, e quindi era un lavoro comunque epico perché noi, cioè, una volta tu prendevi i testi, li davi a qualcuno che componevano, erano 10 print questo, 20 print quell'altro, premici per continuare, cioè il testo degli articoli era una confezione, fra l'altro multimediale interattiva artigianale, eravamo comunque tra virgolette programmatori, quindi... Ok, ma artigianale nel senso che comunque dovevi costruire la manina, non c'erano altri tool come gli emulatori come possono esserci adesso? Assolutamente no, fra l'altro noi abbiamo fatto groundbreaking, come si direbbe oggi, codificando programmi che facevano la visualizzazione del testo proporzionale sullo schermo, quindi abbiamo aumentato la capacità del carattere sullo schermo, infatti via via che i numeri andavano avanti erano sempre sempre più carini, sempre più così tecnologicamente evoluti. E fra l'altro quello che mi ricorda, mi fa ridere, è Compton, che a un certo punto della storia decide di che vuole brevettare un multimediale interattivo, e io avevo fatto cose di quel genere 4-5 anni prima. Quindi Compton, quella delle enciclopedie sui CD, rivendicava il fatto che la gente interagisse col computer, e guardavo le mie riviste di Run fatte appunto anni prima, dove premi un tasto, audio, musica, suoni, tutta questa serie di cose. C64 è rimasto appannaggio dell'ex socio, che quindi ha portato avanti la sua ditestata. E poi sai, ai tempi c'erano le parrocchie, o sei del 64 o sei dello Spectrum. Quindi il tema è Z80 o 6502, il mio è un RISC, il tuo è un CISC, allora cosa succede? Le istruzioni su e giù, eravamo... ci divertivamo così. E tu hai comunque fatto una scelta di campo, come diremo oggi. Sì, ero nato con Z80, sono andato avanti con Z80, l'ho conservato nel cuore, nella testa e anche come stile di programmazione. Sostanzialmente ogni numero era un classico giornale, si partiva, si decideva quali erano i programmi da mettere. Fra l'altro sui programmi si potrebbe aprire una parentesi simpatica, e questo voglio dirlo, ho fatto diversi viaggi in Inghilterra cercando di ottenere i diritti per pubblicare i giochi localizzati, ma questi ci guardavano e dicevano ma no, non ci interessa. Fra l'altro la legislazione era totalmente assente, per cui io sono andato lì e ho detto scusate, io voglio darvi dei soldini, voglio fare le cose nella maniera più corretta possibile, facciamo partnership, ci mettiamo, mi ricordo che c'è un interlocutore tipo Quicksilver, piuttosto che niente, ci hanno rimandato rispedito al mittente. Allora a questo punto ho detto vabbè, abbiamo provato a essere amici, non ce l'abbiamo fatta. Due cose, innanzitutto ho davanti a me il primo numero di Run, novembre-dicembre 1983, 9000 lire. 82? Sì, ah, non c'è la data. Perché qua c'è un novembre... 83, allora sì, adesso okay. 83, scusa. Abbiamo qui davanti il primo numero di Run e sto guardando, impariamo a programmare in Basic, linguaggio macchina, tutte le note a Sinclair, Roder, Run Invader e Meteors. E la confezione in questo caso però è cartacea, non è, c'è il polistirolo. No, il polistirolo era ancora da inventare, per cui c'era questa confezione complicatissima che andava bene per le poche decine di migliaia di copie che avevamo previsto. Poi quando la cosa ha preso piede abbiamo detto così non si può fare. Dentro però vedo uno sponsor, che era la mitica Sandy. La Sandy di Dolfini era praticamente un'azienda che comunque appunto con l'esperienza elettronica costruiva periferiche, perché poi ai tempi il gioco era hai un computer, ci attacchi qualcosa, ci provi a far di più, ci espandi la memoria, e tutto era ancora a portata di uomo. Io mi ricordo che appunto quando ho anche preso altri computer, degli IBM, cioè dei PC, diciamo così, categoria PC, piuttosto che degli Acorn, Archimedes o cose di questo genere, BBC Micro, tutta questa pletora di macchine, erano macchine che tu potevi guardare, aprire, guardavi il cofano, tiravi su e dice allora questo è il controller della tastiera, questo è 16k bit di RAM, questo è un real time clock, questo è un controller di qualche cosa, beh, ci capivi, potevi guardare gli oggetti e potevi anche metterci le mani. Le espansioni erano cambiare una svalangata di chip di RAM, non c'erano i moduli, sfilavi i chip di RAM, mettevi quelli da 16, passavi da 8 a 16k a chip e avevi aumentato il tutto. E fra l'altro appunto il mezzo era sia l'oggetto con cui si facevano le cose che quello con cui ti divertivi, che quello che ti permetteva di fare altro. Aziende come la Sandy, ma poi c'era anche la BEV Interface di Forlì, un'altra mitica azienda in cui mi ricordo che era una coppia di ragazzi, interfaccia di tipo modem, un mitico modem dove mettevi la cornetta del telefono su una specie di accoppiatore acustico e questo ti permetteva di ricetrasmettere dati fra due macchine. Poi appunto nacquero le BBS ai tempi e anche lì si accese la lampadina e dissi bello, bella la rete, perché mettere in edicola delle cose quando le stesse cose le potresti distribuire. Qui arriviamo a Simone Maiocchi 2.0, se possiamo considerare RAN 1.0, e cioè arriviamo al... Arriviamo al Videotel, che brutta parola. Il Videotel perché doveva essere stile Minitel, però ai tempi c'era la SIP, non c'era la Telecom. Minitel è quello francese che ha avuto un successo strepitoso e credo sia stato spento poco tempo, pochi mesi fa, se non è ancora acceso. Ma allora, con Minitel hanno fatto di tutto, veramente di tutto, dalla gestione delle stazioni di servizio che potevano fare lo scarico e il carico delle merci a magazzino ancora col terminale Minitel, e comunque l'atteggiamento è stato: cari francesi, non vi diamo più l'elenco telefonico, vi diamo direttamente il terminale. Quindi da adesso gira tutto su quell'aggeggio lì. In Italia hanno detto: bello, noi continuiamo a dare l'elenco perché dobbiamo continuare a far lavorare quello che fa gli elenchi, e diamo il terminale facendolo pagare un sacco di soldi. E dicevo, quindi il fenomeno Minitel era abbastanza di ispirazione. Quindi io ho preso, andai in Inghilterra, guardai cosa c'era in Inghilterra. C'era una società che c'era un su Prestel, quindi su Televideo, quello che era il Prestel, quindi Televideo, c'era un servizio che si chiamava Micronet 800. E a questo punto, memore del fatto che il mio primo oggetto che costruì fu un laser, decisi di chiamare il tutto Lasernet 800. Quindi l'originalità, il link è questo, quindi nasce Lasernet 800, il primo servizio per home computing. Fra l'altro metto in pista progetti per C64 e Spectrum di adattatori telematici. Il mitico adattatore telematico del C64 era pure quello mezzo figlio mio come progetto, come situazione, come tecnologia. E proviamo a fare anche questa cosa qui. È su abbonamento, Telesoftware, Chatline. Andiamo avanti per un paio d'anni e abbiamo 5.000 pagine online. Ed era il tempo in cui iniziava la gente a capire che esisteva la telematica. La prima chatline è stata figlia mia, e qui stiamo parlando del, mi sembra, del 1986, se non sbaglio, quindi prima di tutto quello che poteva essere chatline online, quindi prima ancora di ICQ, per dire. E questa è una cosa gestita con un BBC Micro, un BBC computer, che scaricava dei messaggi che arrivavano di posta e in tempo reale aggiornava una coda circolare di pagine videotelle, per cui era uno storia, era un sistema, una genialata, per cui la chatline era in realtà una catena di pagine che ripubblicavano quello che la gente inviava a uno specifico indirizzo di mail che non vedeva. Allora, ci stiamo perdendo, siamo arrivati al Lasernet 800, siamo partiti da RAN, un cappello su RAN, quanti numeri, e poi io ho sentito parlare di un RAN in versione tedesca, cioè che sei riuscito a esportare l'idea. Allora, diciamo che RAN bimestrale è andato avanti 13 o 14 nuove, sinceramente dovrei andare a riguardare bimestrale, quindi è andato avanti più di un paio d'anni. Poi ci fu lo stato che decise che, malgrado fossi figlio di madre vedova con un altro fratello che era già a servire lo stato, mi chiamarono a militare, così senza che ci fosse alcun, cioè dopo essere andato mille volte al distretto per dire allora dove sono, no lei non c'è, ma stai tranquillo, si figuri, il computer di Roma sputò la cartolina verde all'insaputa di tutti e di tutto, e io mi trovai a dover andare in quel di Bolzano, pardon, a Merano, a fare il soldatino, perché fra l'altro, essendo nato a Como, ero anche destinato a fare l'alpino. Quindi arrivai lì in una situazione di totale casino, con un'azienda, con dei dipendenti, una situazione in cui questi per primi dicevano: guardi, lei non dovrebbe essere qui, per ora che la mettiamo a posto lei ha finito il militare, per cui ci spiace molto, si diverta. E quindi è iniziato un periodo veramente terrificante, dove passavo le ore al telefono a gettoni a cercare di gestire l'azienda, a coordinare le cose avanti indietro, di qua di là. Insomma, una vita da pazzi. Il cellulare ovviamente non c'era, per cui si usavano le cabine del telefono con i gettoni in queste cose di bronzo, no? Cosa sono? Assolutamente di bronzo. Fra l'altro, sorte volle che capitai anche in un'ottima caserma, dove stavo veramente bene, cioè se non avessi avuto la grana del lavoro della rivista, io potevo anche fare un anno di vacanza stupendo in mezzo ai monti. Non si dice, ma in realtà comunque diciamo che ho capito che il militare è stata la mia ultima vacanza vera fatta nella vita. Detto questo, comunque poi appunto c'è stata la fine di RAN, anche perché poi purtroppo nel campo dell'editoria ho imparato che sono leggi del tipo: il tuo distributore è il signore padrone della tua vita, perché tu firmi un contratto con lui, e quindi se il distributore ti dice devi far così, tu devi far così. Purtroppo il distributore di RAN aveva un contratto con l'editore, che ero io, molto stretto, e sempre questo distributore aveva a che fare con altra gente, che era altri editori che hanno provato a fare anche loro iniziative editoriali simili, ma non funzionavano così bene. Due parole riguardo a questo: tu prima hai parlato che andavi in Inghilterra a cercare di parlare con Ultimate, Quicksilver, cioè con il software house inglesi che producevano i giochi che abbiamo amato tutti quanti, però non ci sentivano sulla localizzazione dei prodotti. Dopo Run, che io ricordo, ci sono state tantissime iniziative che copiavano i giochi, a volte non li localizzavano nemmeno. Beh, sai, se la situazione è priva di regolamenti, di leggi, a questo punto ognuno fa quello che vuole. Mi ricordo che c'erano editori che arrivavano addirittura al settore del porno, che hanno detto: ma col porno si fa fatica, forse con le cassettine si fa meno fatica. E infatti c'era tutto un giro di giovani fanciulli che di mestiere facevano la localizzazione, gli sbloccatori di programmi. E me ne ricordo parecchi, cioè ne ho avuti a bottega da me tanti che hanno imparato come si faceva a fare reverse engineering del software. Io ho inventato strumenti software per cui riuscivo ad andare a trovare la grafica per capire dove c'era scritto il loghettino. Ci si arrangiava, però il reverse engineering era un'arte, c'erano le protezioni da una parte e poi nel fare le protezioni intanto usciva qualcosa di buono, tipo il turbo load che ci siamo inventati per lo Spectrum. Quindi noi riuscivamo a far caricare le cassette più in fretta. Due parole, il turbo loader era, dato che i programmi vivono caricati tramite cassetta, uno degli scopi era fregare la duplicazione delle cassette. E farlo come? Aumentando la velocità di caricamento e il, diciamo, quel gracchiare tipico della cassetta. A volte funzionava, a volte ti impediva di caricare il gioco perché la terza duplicazione non funzionava più niente. Sì, diciamo che questo era un aspetto un po' laterale. Era il problema di chi le cassette le faceva in originale del software, fatto appunto ridicolo. Ai tempi mi ricordo che effettivamente esistevano i duplicatori di cassette che erano queste piastre doppie, ci copiavi le canzonette, poi andava a finire che ci copiavi i giochini del computer. Però era un tema relativo, come poi quando arrivarono i floppy per il 64, c'erano i buchi nel floppy, le protezioni più astruse. Comunque, diciamo che c'è sempre stata questa lotta. Poliziotto e ladro in seguimento perenne via software per proteggere le cose. Una cosa, su Run invece molte volte voi mettevate vostri programmi, cioè gli stati, a parte qualche gioco localizzato, erano vostri, creati da voi. Questo è il valore aggiunto, vero? Beh, certo, noi eravamo comunque sviluppatori, cioè lo sforzo, guarda, la vita è strana. Uno dei miei, tra virgolette, autori più strampalati di Run si chiama Paolo Goglio ed era uno che faceva delle intro terrificanti, cioè terrificanti nel senso che ci metteva 100.000 cose, animazioni, così, nomini, personaggini, e questo ragazzo qui comunque è stato preso a bottega, ha imparato il suo mestiere ed è diventato un creativo che poi si è specializzato in produzioni video e cose di questo genere. Quindi ha imparato il mestiere della multimedialità su Run e poi se l'è portato dietro per la vita a livello di multimedialità vera, cinema e cose di questo genere. Comunque, diciamo che ognuno di noi ha imparato un mestiere. Questo del militare ha un po' rotto le uova nel paniere perché mi ha costretto a lottare ancora più di quello che serviva. E poi c'è stato questo fenomeno del distributore che ha detto: sai che c'è, noi abbiamo un altro editore che ci dà il quintuplo del fatturato che ci fai tu vai molto bene, però questo ci ha detto che o lui o noi, e ovviamente noi scegliamo lui. Quindi, visto che sei un bravo ragazzo e ti vogliamo bene, sappi che noi comunque ti faremo chiudere la tua rivista, scegli tu come farlo, in maniera più cruenta o meno cruenta. E da quel mese mi incominciò a chiamare chi consegnava le copie dicendo: guarda che metà le mettono via e metà le mandano in distribuzione, cioè proprio sistematicamente ti vogliono far schiattare. Decisi a questo punto di chiudere in maniera più o meno indolore e dedicai le energie a questa nuova avventura che era quella sul Videotel. Quindi diciamo che è stato un passaggio forzato. Poi sul Videotel mi sono scontrato con delle realtà ancora più complicate. In tutto questo, fra l'altro, visto che c'era questo giro pazzesco di sbloccatore e cose del genere, fui avvicinato da un editore che voleva fare le classiche raccolte, si chiamavano raccolte di giochi, e oltretutto questo era un editore tradizionale che faceva pubblicazioni di ogni genere, tipo era specializzato in figurine, aveva delle cose meravigliose anche per i bambini, per cui disse: no, abbiamo delle entrature con l'estero, per cui perché non facciamo questa roba qua all'estero? E ho detto: bah, secondo me poi magari andiamo a pestare qualche callo. Comunque misi in piedi un pezzo della redazione capace di lavorare in tedesco, feci tradurre le cose in tedesco e poi scoprimo che il mondo dell'editoria tedesca aveva dei problemi diversi dai nostri, cioè se vuoi fare una rivista straniera tradotta in tedesco, o usi i parenti del distributore tedesco, o questo ti dirà che le tue traduzioni sono state fatte ad una scimmia in calore. E per cui quello che è successo è che noi avviamo la produzione, duplicammo il tutto, mandammolo al tutto, e la risposta fu: questa roba qua non è scritta in tedesco ma è scritta in scimmiese. Chiedemmo una seconda valutazione a qualcun altro e non c'entrava niente, e ci disse: no, bah, è come dire, ok, è stata tradotta da un italiano piuttosto che da un italiano, ovvero è in tedesco perché chi l'ha tradotta era un tedesco madrelingua, quindi era scritto in tedesco, ma non era parente del distributore, per cui il suo tedesco non era buono. Bob, clamoroso, ci levamo comunque da un sacco di beghe, e la cosa lì della Germania finì in questa maniera, perché era comunque un'avventura troppo complicata. Allora, arriviamo ai tempi nostri. Diciamo che tu hai messo mano, mi raccontavi della IM65, cioè di schede computer in cui, anche dello Spectrum, anche dello ZX80, tu avevi un rapporto diretto con l'hardware, lo vedevi, lo toccavi, aprivi il coperchio. Attualmente Simone Maiocchi si occupa di Arduino, che è forse il diretto discendente di quei computer, anche come divertimento e anche come possibilità di smaneggiamento, sia l'hardware, il rapporto tra hardware e software, giusto? Ma allora, c'è in mezzo un pezzo della storia che non va dimenticato. Nelle belle cose che ho fatto, mi ricordo che quando ancora stavo lavorando su RAN, un bel dì arrivò da parte di AMS, no, di Cambridge Computer, quando il signor Sinclair è riuscito a vendere il suo nome, che si presentò con una parabola, una roba strana quadrata con un davanti bianco un po' concavo, e c'era una cosa in Inghilterra che si chiamava Sky. Era l'inizio della televisione satellitare. Praticamente, andando là con una certa frequenza, mi comprai il sistema di ricezione di Cambridge Computer per la ricezione delle trasmissioni via satellite, per cui mi misi a guardare Sky inglese su questo ricevitore che aveva ben 99 canali. Aveva 99 canali che si potevano vedere, in realtà ce n'erano popolati 20. Io ho fatto il puntamento della parabola salendo sul tetto e facendo numeri non da poco. Veramente interessante. Devo dire che io sono entrato nel mondo dell'informatica, tra virgolette, forse uno o due anni dopo, quando già i computer avevano preso un po' di più. Credo che il mio primo computer fosse dell'84, avevo 10 anni, per cui sono arrivato un po' più tardi. Però devo dire che sto iniziando a percepire questo mondo che allora, come ha detto prima Carlo Sant'Agostino, nel senso, chi era nerd era veramente nerd. E diciamo che sto ritrovando e lo siamo rimasti, forse, per certi diversi. Sì, no, noi eravamo i primi absolute beginners, per cui eravamo si è rimasto dentro attaccato come la peste. Sì, questo sicuramente. Comunque nel racconto di Simone poi c'è questa parte relativa a elettronica 2000, diciamo tutta questa nascita, per cui c'era una commistione secondo me molto interessante, che tra parentesi Simone adesso sta riprendendo occupandosi di Arduino e di cose simili, ma c'era questa commistione molto interessante tra l'hardware e il software, cioè in genere chi faceva software un po' si occupava anche dell'hardware, aveva molto spesso anche il saldatore in mano oltre che l'estato in BASIC, tanto per dire. Mi piace, perché così poteva saldare i listati direttamente. Sì, esatto. Ma questo non è l'unico contributo che ci hai portato. Cosa hai scavato? Cosa hai scovato con i tuoi potenti mezzi digitali? I miei potenti mezzi digitali mi hanno permesso di recuperare anche Steve Kulka. Steve Kulka è entrato qualche puntata dopo nel film di RAN e ha portato un notevole apporto tecnologico. In anni successivi ha lavorato su Amiga, per cui ha proseguito sviluppando software per Amiga. Comunque sentiamo il racconto di Steve, dai. Lancialo tu, dai. A voi Steve Kulka, direttamente dal 1984-85 circa. Interview. Buongiorno, siamo qui con Steve Kulka per parlare di RAN. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Cominciamo da una domanda. Allora, come ti chiami? Mi chiamo Steve Kulka. Ok, adesso dici il vero nome. Mi chiamo Steve Kulka. Allora, si chiama Steve Kulka con la K, Kulka. Perché siamo qui? Steve Kulka ha fatto parte della storia nei primissimi anni 80 dell'informatica italiana, o meglio dell'editoria dell'informatica italiana. Ne ha fatto parte in che modo? Adesso ce lo racconta lui. con questa che è stata la prima rivista multimediale, quando allora il termine multimedialità ancora non esisteva, non lo sapevamo, ma stavamo facendo multimedialità su questi computerini 8 bit che erano splendidi peraltro, veramente meravigliosi, e che ci hanno permesso di approfondire l'informatica, credo, a un livello che poi difficilmente negli anni successivi, che è venuto dopo, ha avuto l'opportunità di fare, anche perché erano macchine tutto sommato sufficientemente semplici da consentire al singolo programmatore di andare a toccare tutte le componenti del computer. Un punto fondamentale, allora, i listati digitati a mano, scrivere i propri programmi oppure acquistare le cassette. RAN nasce come tentativo di editoria multimediale in tempi assolutamente non sospetti. E come primo al mondo? Sì, era in Italia sicuramente, questo poco ma sicuro. È stato brevettato il modello di RAN. RAN era la prima e unica rivista, è stato brevettato il modello di rivista su computer, il che ha significato per esempio l'invasione delle edicole da parte delle cassettine di giochini piratati che non erano riviste, perché non avevano gli articoli, non avevano l'impianto della rivista, quindi lì poi sono i tecnicismi dei brevetti, cioè ti copro questa cosa ma non è coperta quell'altra, quindi però dal punto di vista proprio editoriale è stato senz'altro diamo una data di inizio. Il primo numero è uscito, se non erro, nell'ottobre dell'83. Adesso gli anni cominciano a essere tanti. Ok, d'accordo. Tu entri in campo per il quinto numero, giusto? Io però conoscevi già i fondatori. Io entro in redazione che si stava chiudendo il quinto numero, anche se poi ho cominciato la collaborazione sul numero 6, quindi avremo modo di parlare anche con settembre 84. Avremo modo di parlare anche con Simone Maiocchi e con Eugenio Ciceri, che sono le altre due anime nere di RAN. Sì, Simone è stato l'ideatore fondamentalmente di RAN, che era partito all'interno di Elettronica 2000, nella redazione di Elettronica 2000, e si è poi staccato poco dopo, e è diventata un'attività indipendente. Eugenio, che poi avrà modo magari di raccontare lui stesso, era un accanito lettore che, come tanti altri accaniti lettori, ahi lui, si recò in redazione per cercare un arretrato, e all'epoca, visto che c'era una discreta ricerca di programmatori che collaborassero, sapendone un po', essendo anche abbastanza sgamato sull'informatica, sullo Spectrum, e allora venne cooptato come collaboratore, e poi io, che ero amico, eravamo anche vicini di casa all'epoca, seguì le sue orme poco dopo, e tanti altri validissimi collaboratori che ha avuto RAN in quegli anni sono arrivati, chi magari scrivendo, mandando una cassettina con un programma del codice, chi venendo a trovarci in redazione. Allora, come era organizzato il numero di RAN? Perché hai detto che c'erano degli articoli che parlavano sostanzialmente dei programmi, e poi c'erano dei programmi che erano, possiamo dirlo, un po' piratati, nel senso che erano dei software originali che arrivavano principalmente dall'Inghilterra. Ricordiamo che lo Spectrum è stato probabilmente una piccola percentuale del PIL inglese negli anni della Thatcher, perché penso che ha finanziato l'economia. Allora, RAN era partita come rivista di materiale esclusivamente originale e è andato avanti in questo modo finché ha potuto, fino a quando si sono fermate le prime cassette pirate in edicola, e questo ha portato al problema che è un paradosso, ha portato al problema di dare comunque quello che i lettori volevano, perché sì, si apprezzavano gli articoli, i corsi, gli stati di esempio, tutto quanto, però chiaramente non si poteva competere con videogiochi magari più strutturati. All'epoca, tra l'altro, c'era questa particolarità: il software non era assolutamente tutelato. Questa era la domanda. Allora, noi stessi siamo stati strapiratati negli anni dello Spectrum, negli anni di Amiga. Il fatto che fosse una cassetta audio il supporto su cui c'erano i giochi portava inevitabilmente ad avere in tutte le camerette dei ragazzi, la mia per prima, un registratore a doppio deck, per cui due cassette e tutti i giochi, i magheggi sulle cassette ferrocromo, su tutte queste cose? Sì, beh, diciamo che poi soprattutto la fonte principale all'epoca erano i negozi stessi, i negozi di computer. Tu compravi il computer e avevi in omaggio 800 programmi, compravi le riviste cartacee con gli annunci, e c'erano annunci tipo mandami la tua lista, io ti mando la mia, ho 6.000 programmi, scambiamoceli. Era una pirateria molto sui generis, perché quando tu hai 6.000 programmi non hai in realtà piratato nulla, stai collezionando software che magari caricherai una volta, guarderai le prime schermate tanto per capire cos'è, premerai il tasto di reset e passerai al programma successivo. Questa è una cosa che succede ancora oggi con software, con la musica, con il video, c'è proprio questa idea del collezionismo fine a se stesso da parte di gente che comunque non ti comprerebbe mai il software, il film o il brano musicale. Quindi noi l'abbiamo sempre, anche quando poi negli anni con Amiga soprattutto, ma anche con lo Spectrum, siamo stati a nostra volta oggetto di pirateria, e eravamo su queste famose liste, le prendevamo molto con le molle, perché sapevamo che comunque non erano vendite perdute, come era adesso ti fanno credere tanti. Chi ha creduto effettivamente che la pirateria di quegli anni fossero vendite perdute e ha basato le sue strategie commerciali su quello, non a caso è andato poi a gambellaria, perché il mercato era un finto mercato. È stato punito dal mercato alla fine, o dagli utenti? Ha cercato di lavorare su un mercato che non esisteva. Allora, il numero tipicamente comunque conteneva degli articoli che venivano caricati sul computer stesso. L'idea era quella di leggerli, cioè in questo momento noi stiamo utilizzando un iPhone, un iPad, abbiamo davanti dei dispositivi che riteniamo avanzatissimi, ma l'idea di leggere una rivista informatica su un computer era già attiva 30 anni fa. Sì, gli articoli erano a tutti gli effetti dei programmi che inglobavano il testo, oltretutto anche lì erano programmi che, nati come semplicissimi programmini basic per creare e sfogliare le pagine, andando solamente avanti, neanche andando indietro, poi numero dopo numero questo programma veniva sempre più perfezionato e evoluto. Devo dire che un grosso contributo lo diede un altro lettore trasformatosi in colonna portante di RAM, che è stato Bruno Molteni, che aveva sviluppato questa routine, noi la chiamavamo mini VP proporzionale, VP per un word processor, ed era un programma che stampava caratteri proporzionali. Allora i computer stampavano i caratteri a larghezza fissa, e lo Spectrum oltretutto aveva, mi pare, una larghezza di 32 colonne. Sì. Adesso non arrivava alle 40. Esatto. Col proporzionale invece si riusciva ad arrivare molto più, cioè il testo era anche molto più leggibile, e anche questo era un programma in linguaggio macchina che veniva integrato nell'ossatura basic delle pagine e permetteva poi di avere un leggibilità. Anche questo programma è stato piratato. Steve Jobs avrebbe apprezzato, vista la sua mania per i font, per queste cose. Sì, era veramente un tool notevole, ed è stato quello con cui si è presentato praticamente Bruno alla redazione. Teniamo conto che si trattava di leggere su un televisore, non su un monitor. La maggior parte della gente, io avevo un televisore addirittura in bianco e nero le prime volte. Sì, era il bello e il cruccio di questi computer all'epoca, che avevano il modulatore RF e poi si potevano utilizzare con qualunque televisore dell'epoca. Noi in redazione avevamo questi meravigliosi monitor della Antares, erano gran bei prodotti, devo dire, e una qualità di visione che ovviamente il TV a casa non ti permetteva di avere. Per cui bianco e nero, poi sì, figuriamoci. Per cui, allora, veniva creato l'articolo, veniva inglobato in questi oggetti, e poi c'erano i programmini pirata. C'erano i programmini originali. E li creavate voi? Qualcosa noi, qualcosa con laboratori esterni, qualcosa, diciamo che noi cercavamo sempre, noi avevamo moltissimi lettori che scrivevano ogni mese mandando le loro cassettine con i loro programmi, e cercavamo veramente di scremare. Abbiamo trovato dei programmi notevoli in quegli anni. Quello che abbiamo potuto l'abbiamo pubblicato credo delle cose meravigliose per l'epoca, e considerando che venivano fatte da persone che avevano, noi vedi in redazione quantomeno c'era un andirivieni, c'era uno scambio di opinioni, di conoscenze, era un punto di aggregazione, di incontro, come notevole, i negozi di computer di allora. Questo però capitava a Ran, capitava a Milano, capitava nelle grandi città. In Italia noi ricevevamo lettere di lettori che dicevano: voi siete l'unico contatto che io ho col mondo Spectrum, perché nella mia provincia non c'è neanche un negozio o un'edicola che porti una rivista in inglese, perché poi c'era anche questa. Assolutamente, ma noi stessi qui a Milano andavamo all'aeroporto di Linate per prendere le riviste. O in Piazza Cordusio, io mi ricordo in Piazza Cordusio c'erano delle riviste pornografiche e a fianco c'era un piccolo reparto di riviste in inglese, o Marco in giornalaio Marco in Piazza San Marco. Quindi tu hai scoperto le riviste in informatica andando a ero distratto con questi elementi, dà l'idea anche dell'alta considerazione che avessero gli edicolanti allora degli informatici. Assolutamente. Comunque, dato che io avevo 14-15 anni, era comunque, era uno stimolo ormonale ulteriore quello di mettere uno a fianco all'altro. Dovevi conoscere l'inglese, perché poi oltretutto... Per quale rivista? No, ho detto inglese, non svedese. Ah, ecco, ok. Perché allora quel poco che c'era era in inglese, e quindi quello era un altro grosso problema che noi percepivamo, ci scrivevamo. Però era divertente. Erano anche fatte, forse erano molto più bric-a-brac come riviste, sì, però erano, Your Computer per me era bellissima, era divertente. Sì, sì, poi c'erano anche queste guerre da Your Computer, Sinclair User. Facevano anche degli scherzi particolarmente cattivi in occasione delle fiere. Quindi c'era proprio un mondo a sé stante, e devo dire tanto di cappello a chi era completamente fuori da quel mondo, e ciò nonostante riusciva a tirar fuori dei piccoli capolavori. Questo Quante volte vi siete dannati l'anima perché allora passo indietro, molti di questi programmi avevano degli schemi di protezione. Sì. Alcuni di questi schemi di protezione erano, come dire, molto hardware, nel senso che dato che viene registrato dell'audio sulla cassetta, e questo audio sono dei beep che vengono tradotti in byte dal computer, c'erano dei trucchi per cui veniva sfalsata la velocità, il timbro, il volume, l'ampiezza del segnale, i turbo loader, o comunque tutti questi meccanismi di protezione, in modo tale che copiando la cassetta brutalmente non fosse possibile. Era un po' l'equivalente di stampare su carta verde, diventava non fotocopiabile. Allora, c'è stato qualche volta che ho detto: questo software dell'Ultimate, tanto per fare un nome. Devo dirti una cosa, che torniamo un po' al discorso dello sbloccaggio di questi programmi. Non veniva fatto su scala industriale ARAN, come veniva fatto invece per quegli editori che avevano esclusivamente un catalogo magari di 4-5 testate esclusivamente pirata, quindi lì chiaramente le cose andavano fatte in un altro modo. Per noi ogni programma era soprattutto un'occasione per imparare. Mancando questa documentazione, tu dove andavi a cercare la conoscenza? Nei programmi che già esistevano. E credo che il massimo dell'esperienza venisse proprio applicato a questi schemi di protezione anticopia, che erano alcuni veramente complessi, hanno anche contando sempre i 48k di memoria a disposizione, contando i 48k, contando un sacco di cose. Per esempio, è stato guardando questi sistemi di anticopia che ci siamo accorti a un certo punto che questi programmi utilizzavano dei codici operativi di istruzioni che non risultavano da nessuna parte. cioè codice dello Z80, cioè, non documentato esattamente, c'erano delle istruzioni nel processore che non erano documentate da nessuna parte, e allora lì avevamo lanciato un po' un'indagine con Eugenio, tra l'altro mi ricordo questi viaggi in treno, perché allora abitavamo molto fuori Milano e c'era questo trasferimento quotidiano in treno, e avevamo poi capito un po' qual era la logica di queste anche perché non è che rannassero molto i treni, e lì avevamo trovato tutta questa serie di istruzioni non documentate che poi vennero utilizzate da un altro collaboratore di RAN per scrivere un monitor disassembler che teneva conto anche di queste istruzioni, cosa che all'epoca a nostra conoscenza non faceva nessuno. E disassemblavate ogni programma che arrivava. Arrivava un nuovo programma di Ultimate Play the Game, non ogni programma, quelli che vedevamo che avevano qualche routine di interessante, cercavamo di capire come era fatta, poi magari veniva utilizzata, magari no, però alla fine era tutta conoscenza. Poi è finito questo periodo d'oro, RAN che parabola ha preso? Allora, RAN ha fatto un'evoluzione in direzione delle reti telematiche, che allora dopo la metà dell'85 stavano cominciando a prendere piede, e il grande progetto su cui poi si è trasferita tutta la competenza di RAN è stato il progetto Videotel. Videotel che era come tecnologia estremamente in auge in Gran Bretagna. In Gran Bretagna si chiamava Prestel, su Prestel c'erano questi fornitori di informazione cosiddetti, che oggi sarebbero i siti, diciamo, e uno dei più grossi visitati siti del Prestel britannico era Micronet 800, la pagina 800 del Prestel, che dava accesso a questo che era un po' un RAN telematico, dove avevi, e c'era un modem dedicato, ricordo sulle riviste inglese c'era questo modem 1275, in download e 75 in upload, esattamente, che poi sono i modem usati per i videotel in Italia, e l'idea è stata quella di portare parte di questa tecnologia anche proprio per il videotel di per sé in Italia, e replicare questa esperienza insieme agli amici di Micronet. E è stata una bella avventura che rovinata dalle politiche molto ondeggianti di SIP, l'ex monopolista. Il monopolista precedentemente noto come SIP. Esatto. Che aveva delle strategie ondivaghe. Prima pensava e diceva: noi Videotel lo vogliamo spingere per, non so, le aule l'insegnamento a distanza, e poi allora tutti facevano, e poi dopo due mesi no, abbiamo cambiato idea, vogliamo fare per la pubblica amministrazione, quindi non sapevi cosa fare, e nel frattempo non si diffondeva, come invece avrebbe dovuto essere, il famoso numero unico per chiamare Videotel da tutta Italia senza pagare le carissime tariffe interurbane di allora. Quindi c'è questo numero unico a tariffazione agevolata, che poi in realtà è stato su pochissime città. Quando è stato diffuso finalmente in quasi tutta Italia, ormai Videotel era diventata una specie di messaggeria più o meno erotica, perché poi il discorso era questo, ma ormai soprattutto gli appassionati, gli hobbyisti si erano spostati sulle BBS e su queste iniziative che erano totalmente indipendenti, totalmente slegate da un'infrastruttura di nessuno. Esatto, poi dopo e da lì poi pian piano si arriva a internet. Tu mi hai parlato di alcuni di un record, o comunque di un podio sul quale è salito RAN, che è stato citato da qualcuno. Sì, stiamo parlando del Camel Trophy Video Game. Camel Trophy Video Game, che è stato il videogioco commerciale, forse il primo, credo, con uno sponsor di peso, come Camel Trophy, che all'epoca era un marchio estremamente forte. Quindi stiamo parlando dell'anno? Noi stiamo parlando del 1985, un progetto che era nato alla fine dell'84, quindi con tutta una genesi anche abbastanza complessa, come sempre capita quando si ha a che fare con marchi internazionali, e che poi diede vita nell'autunno dell'85 a questo gioco che apparve in edicola, è collegato alle selezioni del Camel Trophy che si sarebbe corso l'anno successivo, e fu all'epoca il videogioco italiano più venduto in assoluto, e rimase, dai dati che poi io ho avuto anche negli anni successivi, rimase tale fino a quando i grossi quotidiani nazionali nei primi anni 90 non scoprirono anche loro l'efficacia del canale distributivo rappresentato dalle edicole per vendere software di ogni genere. E quindi parliamo dei CD-ROM allegati ai quotidiani, ecco, questo è per intenderci, che allora hanno fatto numeri superiori. E quello però è un figlio di RAN. Quello è un figlio di RAN, è stato fatto nella redazione di RAN, dalla redazione di RAN. E tutto made in Italy. Tutto made in Italy. E l'unico collaboratore che non facente parte in pianta stabile della redazione era Gianluca Magnani, che era colui che faceva queste grafiche meravigliose, tipo le copertine. Noi lo consideravamo una specie di scanner umano. Tu gli mandavi, come era successo per il Camel Trophy, gli avevamo mandato una serie di fotografie dicendo: guarda, servirebbe la Jeep presa da qui, servirebbe la giungla presa da qua, e lui ti mandava queste cassettine con questi disegni fenomenali fatti benissimo a 256x192 pixel, usando al meglio questa limitazione, oltretutto dei due colori per quadrotto, e era veramente molto molto il bravo. Il trisnonno di Photoshop. Era il trisnonno di Photoshop, e noi ogni tanto noi abbiamo pubblicato anche sui numeri di RAN alcune schermate che lui ci mandava. Avevamo anche delle schermate che non potevano essere pubblicate, ogni volta che arrivava erano troppo tecniche il pacchettino, esatto, sì. Molti dei nostri lettori non avrebbero assolutamente capito. E ogni volta che arrivava un pacchettino da mittente Gianluca Magnani, tutta la redazione si fermava per andare a vedere il cruccio, che noi non abbiamo mai conosciuto oltretutto. Gianluca, avevamo questo rapporto epistolare, perché poi all'epoca si usava molto, ha collaborato con noi per diversi numeri, e effettivamente ha contribuito da par suo all'apertura di questo gioco, che poi si vede poi anche nella confezione, sulle foto che sono state usate anche poi per il marketing della cosa. Ok, concludiamo qui, ringraziamo Steve Kulka, grazie, e a te, salutiamo grazie tutti gli ascoltatori di Archeologia Videoludica. Assolutamente, e divertiamoci e andate a vedere che cosa è successo nel passato, perché può aiutarci per il futuro. Assolutamente sì, perché poi è un passato che ti permette di capire molto meglio anche il futuro dell'informatica. Ok, grazie molto Steve. Grazie a te. E dopo questo fiume del Barnett College, un Barnett College molto particolare, un Barnett College molto a Marcord, per chi c'era, veramente sì, per chi c'era, perché per chi non c'era, che per chi non ha veramente tastato queste riviste andandole a comprare dall'edicolante, che poi erano sempre in ritardo, ti ricordi? Cioè, andavi lì, è uscito Zap? No. Cos'è Zap? E ti davano un giornalino porno. Esatto, tu andavi lì, guardavi nelle cose, cioè, me lo va a prendere, si scazzava, sì. Era, insomma, dopo questo periodo, questo Barnett College così intenso, chiudiamo, piccolo respiro, e andiamo sul bar su Melee Island. Prima delle lettere giunte in redazione, che fa molto vecchio stile, devo passare la palla a Roberto, vai. Sì, allora anche noi ammetto volevamo inventare qualche lettera per darci un po' di tono a vecchie riviste, perché anche se Carlo ha negato, sappiamo che qualcuno all'epoca cade nel vil tranello. Sto morendo, scusate. No, volevo appunto lasciarvi uno spunto finale relativo alla puntata, che sicuramente può aiutare qualcuno a approfondire, qualcun altro entrare un po' nel tema di quegli anni. No? Sul Games Italia abbiamo una sezione detta Old Max, in cui noi abbiamo appunto scansionato molti dei vecchi, delle vecchie riviste dell'epoca. Potete fruirle, potete guardarle, potete anche scaricarle. Quindi se volete comunque fare un salto nell'epoca e magari trovare la gran fica citata da Carlo, potete farlo pure e siete benvenuti. È un progetto in divenire, quindi qualsiasi contributo, commento o quant'altro siamo a vostra disposizione. Basta, puoi andare tranquillamente con le lettere, caro Alex. Oh, caro Roberto. Bene, iniziamo a leggere le lettere, stavolta in maniera molto molto molto più radiofonica della volta scorsa. Dal sito di Archeologia Videoludica, Rizza l'ha detto: purtroppo non ero ancora nato quando Dragon Slayer circolava nelle sale giochi, ma sono riuscito a provarlo e a finirlo grazie a una versione per Android veramente ben fatta. Ho consumato 3 vite. Comunque bella puntata, come sempre. Continuate così e ricordate, tenete l'occhio Peppe, sta preparando qualcosa di losco. Qualche sospetto ce l'ho anch'io. Anche secondo me, ripeto, anche perché lui con i Maya ci ha stretto, ripeto. Se state ascoltando questa puntata, i Maya hanno fatto qualche errore di calcolo. Massimiliano Ranaldi ha detto: se non vado errato, online è presente una versione in flash di Dragon Slayer, devo andare a ripescarla. Confermo e poi vi diamo il link. A me non funzionava quel link lì, lo sai. Non sei, tu un Mac, non sei buono. Ma l'ho provato dappertutto, cioè non è un problema di lì. Proprio mi diceva il sito non esiste. Vediamo un po' a migliorare la situazione. Ok. Finn ha detto: New Rant, ma bensì si dice. Vi rimando ad un apposito link dell'Accademia della Crusca. Qui ci linka il link dell'Accademia della Crusca, che noi linkeremo a nostra volta. Del resto si sa che Archeologia Videoludica è il podcast per imparare l'italiano. Inoltre sono pronto a scommettere che Adventure sarà uno dei giochi più riscoperti nei prossimi anni, appena la Warner avrà finito di comprare tutti i diritti che servono per il libro che vi citavo la volta scorsa. Torno in tema, Don Bluth è sicuramente un grande animatore, e non solo, a cui va riconosciuta la capacità di sperimentare, da Dragon Slayer al suo ultimo e criticatissimo film Titan AE, dove cercava di portare i primi concetti di CGI all'interno dell'animazione classica. A quella qui rispondo io, effettivamente, e ho anche risposto direttamente a lui, quando abbiamo fatto la registrazione io ho pensato a Titan AE, che è un film che mi è piaciuto molto ed è un film considerato d'animazione minore, però in realtà secondo me era molto interessante. Si vede, e si è ascoltato il DVD col commento del regista, che avevano finito i soldi, per cui molte scene sono renderizzate a 12 fotogrammi al secondo, non a 24, senza motion blur, insomma... È stato fatto di quindi dobbiamo finirlo, ma non ce la facciamo più. Però va riscoperto, se lo trovate in vendita a 1 euro da qualche Media World, prendetevelo perché vale la pena. Tu cosa ne pensi? Beh, sicuramente nel senso che Titan, se usare la pronuncia inglese, a me è piaciuto moltissimo. Quindi diciamo che sicuramente è un personaggio importante. Purtroppo non così riconosciuto, ecco, a livello autoriale. Ti ho seccato proprio questa risposta. Va bene, va benissimo, seccami quando vuoi, sono tutto tuo. Ti accapponato la pelle. Esatto. Vai. Stefano Biggio, che noi salutiamo perché conduce insieme al nostro caro Simone Pizzi, a Marco Gualdi e altra gente, tra cui anche Bertone ogni tanto, di Archeologia Videoludica, che è la sorella minore ma quella con la testa più sulle spalle di Archeologia Videoludica, ci ha detto: bellissimo episodio, una menzione speciale ad Alex che ha una voce splendida. Ragazzi, ok, mi stavo prendendo per il culo, dai, facciamo così. Esatto, oppure è un tentativo di accoppiamento, prova. Io posso accettare. Dal sito di PN, The Ruler ci dice: aridaie, dopo l'ultimo episodio di DBL possiamo ufficialmente sostituire la ragione sociale di IPN, Italian Porconi Network. Secondo me qui ha sbagliato, invece di dire Archeologia Videoludica ha messo Dietrologia Videoludica, ma va bene perché siamo tutti in famiglia. Alex, 2 punti, aperte virgolette, ammazza che capezzoloni, chiuse virgolette. Pizzi, aperte virgolette, dove, linka o, chiuse virgolette. Gualdi si evolve, da sparatore cieco diventa guardone videoludico. Stupenda puntata ragazzi, mi avete fatto piegare. Personalmente sono molto contento se ti abbiamo fatto piegare, perché noi ci chiamiamo Bender di secondo cognome, a parte questo, il nostro scopo è di divertirci e di divertire, per cui se ti sei divertito io sono felice. No, poi vorrei sottolineare il fatto che, non essendo citato, fuoriesce ancora una volta la mia estrema moralità e il mio essere appunto una persona di alti profilo, alte qualità morali, tecniche, filosofiche, eccetera eccetera eccetera. Insomma, sei un democristiano, lo so. Ok, e ti rubo la palla perché è incredibile ma vero, abbiamo, signori, dei commenti anche sul Games Italia, e quindi questa cosa è veramente un po', diciamo, un momento topico, quindi forse veramente il 21 finirà il mondo. Velocemente Asterix 777 ci linka direttamente il gioco in flash di cui parlavamo poc'anzi, che dovrebbe essere dragonlayerflash.com, poi qualcuno può verificare che sul computer di Alex non funziona, ma è colpa sua. Aggiungo che di recente, sempre a Asterix, è stato provato Dragon Slayer anche su Greenlight di Steam. Poi ci dice che ha ascoltato qua sotto il podcast che l'ha riportato indietro nel tempo. Che ricordi? Interessanti anche le infotecniche, tipo le due velocità CAV e CLV. Le conoscevo, ma non sapevo che solo la prima permetteva una lettura controllata del disco. E qui ringraziamo Alex. Non sapevo poi che ci fossero versioni di Dragon Slayer con sequenze lineari non casuali. Qua qualcuno probabilmente non ci credo ancora, però siamo fiduciosi. Mi era invece capitato con Space Ace. In un bar una volta trovai Space Ace e iniziare la partita. Delusione quando mi accorsi che i filmati comparivano in sequenza casuale come DL, senza seguire la storia, e conseguenze anche avanzate che non avevo mai giocato. Arg. E poi infine, sempre lui, visto che ha proprio gustato la puntata, speriamo che di sentirlo anche la prossima volta, ci dice: qui ci sono le scene tagliate e qui c'è quindi un link a YouTube e poi un video di Dragon Slayer 3D, che è un action in computer grafica e non FMV. Basta, diciamo che anche qua abbiamo chiuso. Che bello. Tu sei scioccato, di la verità. Assolutamente scioccato, sì. Continuiamo con le recensioni su iTunes. 5 stelle da Justin Rosati, che conduce il podcast Justin Apple, che saluto, visto che è il mio quasi caro amico. Non direi caro amico perché non ci conosciamo direttamente, però ci vogliamo tanto bene. Hanno qualcosa in più. Ogni tanto sembra che cazzeggino troppo, ma in realtà ci si sente fra amici e appena finita la puntata si attende con ansia la successiva. Non mi soffermo nel dire che sono preparati perché è lampante per tutti. Fantastici. Eccellente. Diciamo che gli spunti per le prossime puntate è veramente tantissimi. Riuscire un po' a distaccarci non sarà facile. Speriamo di portarvi qualche sorpresina per Natale. Comunque questa puntata sicuramente sarà potente per tutti, quindi siamo fiduciosi. Perfetto, allora a questo punto, sperando che i Maya non ci facciano lo sgambetto, questa puntata andrà in onda, la potrete ascoltare quando ancora la neve imbiancherà i monti. Ok, come sempre, se volete contattarci, i riferimenti li abbiamo dati prima. Se, giusto, per darci qualche indicazione, se avete problemi per scaricare la puntata, ditecelo, però se l'avete sentita probabilmente non avete problemi. E basta. No, ridiamo i riferimenti: archeologiavideoludica.net, Archeologia Videoludica su Facebook e Google Plus, Videoludica su Twitter. La nostra email è archeologiavideoludica@gmail.com. Invece il portale che produce con noi questo programma è allgamesitalia.net. Ragazzi, io sono Alex Raccuglia, con me è stato Roberto Bertoni, i fantasmi di Simone Pizzi e di Stefano Paganini e soprattutto Carlo Sant'Agostino. Alla prossima puntata di Archeologia Videoludica. Ciao! Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, un saluto e grazie. Ciao! Viva il retrocomputing! Registro, sì, accesa. Registro 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ciao, perfetto. Allora facciamo seria sta puntata. Anche se, prova. Cacchio, da tutte le defezioni che abbiamo avuto mi fa veramente paura. Aspetta che... E qui parte la sigla. Non so, magari questa la rifaccio anche, vediamo, cioè, no, mi piaceva, vai tranquillo. Un attimo di pausa per noi. Allora, adesso come ci organizziamo, visto che Paga ha salutato? Cioè, secondo me riusciamo a gestirla sta cosa quando lui torna qui, però non so come farla. No, secondo me... Allora, scusa. Se si inizia a avvicinare il tempo... Sì, no, no, fra un minuto ti liberiamo. Secondo me, allora, visto che tu l'hai sentita bene, io l'ho sentita al volo tagliando qua e là perché era un po' lunga. Se la vuoi introdurre, facciamo un paio di commenti e... Cazzo, chi se la ricorda? Non so. L'ho sentita veramente, veramente 2 mesi fa, e intanto che stavo facendo il bagno, per dirvi. Era molto bella, però non mi ricordo un cazzo di quello che c'è. Ormai i miei neuroni sono andati alle cozze. Perfetto, allora, di schiacciare il pulsante di fermo della registrazione. For poi dummies. Fai file, esporta. Un po' di roba le taglio. Perché alcune cose sono venute troppo lunghe, non trovi? No, secondo me ci lascia, secondo me rende. Ah, ok, perfetto, va bene. Cioè, l'unica cosa che... Cioè, chiaramente tagli i commenti noi in mezzo, che sì. Registrano tu, registrano io, quelle cose lì. Ma secondo me lasciarlo tutto... Sì, no, ma è ovvio che non lascio questi sporchi. Queste cose le fa Piz, non le faccio io, dai. Commenti, c'è qualcuno su iTunes che poi io non vedo. Aspetta, fammi vedere. Dammi un secondo che andiamo su iTunes... E copy e incollo eventualmente. Ma quanto è merda iTunes nuovo. Ma quanto è merda iTunes nuovo. Ma porca miseria. Intanto do istruzioni a mia moglie che riusciamo ad andare a messa stamattina. Intanto un quarto d'ora abbiamo finito noi.